Secondo libro delle cronache. Salomone, figlio di Davide, si consolidò nel suo regno. Il Signore, suo Dio, fu con lui e lo rese straordinariamente grande. Salomone parlò a tutto Israele, ai capi di migliaia e di centinaia, ai magistrati, a tutti i principi di tutto Israele e ai capi famiglia. Indi Salomone, insieme a tutta l'assemblea, si recò sull'altura situata a Gabaon, giacché là si trovava la tenda del convegno di Dio, che Mosè, servo del Signore, aveva costruito nel deserto. Ma l'arca di Dio, Davide l'aveva trasportata da Kiriat Jearim al luogo che egli aveva preparato per essa. Infatti, egli aveva innalzato per essa una tenda in Gerusalemme. L'altare di bronzo, costruito da Besaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, si trovava là, di fronte alla dimora del Signore. Ivi si recarono a consultarlo Salomone e l'assemblea. Là Salomone salì sull'altare di bronzo davanti al Signore, che era presso la tenda del convegno, e sopra di esso offrì 1000 olocausti. In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che ti debbo dare». Salomone rispose a Dio: «Tu hai trattato con Davide, mio padre, con grande benevolenza e mi hai fatto regnare al suo posto. Ora, Signore Dio, sia veri la tua promessa fatta a Davide, mio padre, perché tu mi hai fatto regnare sopra un popolo numeroso come la polvere della terra. Concedimi ora sapienza e senno, in modo da poter guidare questo popolo, perché chi mai potrebbe governare questo tuo popolo così grande?» Allora Dio rispose a Salomone: «Poiché ti sta a cuore questo, e non hai chiesto né ricchezza, né beni, né gloria, né la vita dei tuoi nemici, e poiché non hai chiesto nemmeno una vita lunga, ma hai chiesto sapienza e senno per governare il mio popolo, sul quale ti ho costituito re, sapienza e senno ti saranno concessi. Inoltre ti darò anche ricchezza, beni e gloria, quali non ebbero mai i re che ti precedettero, né avranno quelli che verranno dopo di te». Salomone ritornò dall'altura di Gabaon a Gerusalemme, lontano dalla tenda del convegno. Egli regnò su Israele. Salomone radunò carri e cavalli. Ebbe così 1400 carri e 12.000 cavalieri, che installò nelle città dei carri e presso il re a Gerusalemme. Il re fece in modo che l'argento e l'oro fossero in Gerusalemme abbondanti come le pietre e i cedri, come sicomori che crescono nella Sefela. Il luogo da cui provenivano i cavalli di Salomone era Muzri e Cue. I mercanti del re li prendevano a Cue dietro pagamento. Essi facevano venire e importavano da Muzri un carro per 600 sicli d'argento e un cavallo per 150. Per tramite loro ne importavano i re degli Ittiti e i re di Aram. Salomone decise di costruire un tempio al nome del Signore e una reggia per sé. Salomone arruolò 70.000 uomini per il trasporto di pesi, 80.000 uomini per estrarre pietre dalla montagna e 3.600 sorveglianti su di loro. Salomone mandò a dire a Curam, re di Tiro: «Come hai fatto con Davide, mio padre, inviandogli cedri per costruirsi una casa in cui abitare, così agisci anche con me. Ecco, io sto per edificare un tempio al nome del Signore, mio Dio, per consacrarglielo e poter bruciare davanti a lui profumi fragranti, esporre perennemente i pani dell'offerta e presentare olocausti mattina e sera, nei sabati, nei noviluni e nelle feste del Signore nostro Dio, come prescritto per sempre ad Israele. Il tempio che voglio edificare deve essere grande, perché il nostro Dio è più grande di tutti gli dèi. Chi dunque avrebbe la forza di costruirgli un tempio, dal momento che i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerlo? E chi sono io per costruirgli un tempio, anche solo per bruciare incenso alla sua presenza? Or dunque, mandami un uomo esperto nel lavorare l'oro, l'argento, il bronzo, il ferro, le stoffe di porpora, di cremisi, di violetto, e abile nell'intarsio di ogni genere. Egli lavorerà con gli artigiani che io ho in Giuda e Gerusalemme e che sono stati preparati da Davide mio padre. Inviami anche legname di cedro, di cipresso e di sandalo del Libano. So, infatti, che i tuoi servi sono abili nel tagliare il legname del Libano. I miei servi si uniranno ai tuoi servi per prepararmi legname in abbondanza, perché il tempio che voglio costruire sarà grande e splendido. Ecco, ai taglialegna, a coloro che abbattono le piante, darò come nutrimento per i tuoi servi 20.000 cor di grano, 20.000 cor di orzo, 20.000 bat di vino e 20.000 bat di olio. Curam, re di Tiro, rispose con uno scritto che mandò a Salomone: per amore verso il suo popolo, il Signore ti ha costituito re sopra di essi. Inoltre Curam diceva: benedetto sia il Signore Dio d'Israele, creatore del cielo e della terra, che ha dato al re Davide un figlio saggio, pieno di intelligenza e accortezza, che costruirà un tempio al Signore ed una reggia per sé. Ora ti mando un uomo esperto, pieno di abilità, Curam Abi, figlio di una donna della tribù di Dan e di un padre di Tiro. Egli sa lavorare l'oro e l'argento, il bronzo, il ferro, le pietre, il legname, le stoffe di porpora, di violetto, di bisso e di cremisi. Sa eseguire qualunque intaglio e creare qualunque opera d'arte che gli venga affidata. Egli lavorerà con i tuoi artigiani e con gli artigiani del mio signore Davide, padre tuo. Ora il mio signore invii pure ai miei servi il grano, l'orzo, l'olio e il vino che ha promesso. Noi taglieremo tutto il legname del Libano di cui avrai bisogno e te lo porteremo su zattere per mare a Giaffa. Tu poi lo farai trasportare a Gerusalemme. Salomone recensì tutti gli stranieri residenti nel paese di Israele, dopo il censimento effettuato da Davide suo padre. Ne furono trovati 153.600. Di essi ne prese 70.000 come portatori di pesi, 80.000 perché tagliassero pietre nella montagna e 3.600 sorveglianti che facessero lavorare il popolo. Salomone cominciò a costruire il Tempio del Signore in Gerusalemme, sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide, suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato sull'aia di Ornan, il Gebuseo. Incominciò a costruire nel secondo mese del quarto anno del suo regno. Queste sono le misure delle fondamenta stabilite da Salomone per la costruzione del Tempio di Dio. La lunghezza, in cubiti di antica misura, era di 60 cubiti e la larghezza di 20 cubiti. Il vestibolo che si trovava di fronte al tempio era lungo, nel senso della larghezza dell'edificio, 20 cubiti. La sua altezza era di 120 cubiti. All'interno lo rivestì di oro puro. La grande aula la ricoprì di legno di cipresso. Indi la rivestì di ottimo oro, scolpendovi sopra palme e ghirlande. Come ornamento rivestì l'aula di pietre preziose, e l'oro era quello di Parvaim. Così rivestì d'oro l'aula, cioè le travi, le soglie, le pareti e le porte, e fece scolpire cherubini sulle pareti. Poi costruì la cella del Santo dei Santi. La sua lunghezza sulla misura della larghezza del tempio era di 20 cubiti. Anche la sua larghezza era di 20 cubiti. La rivestì di ottimo oro per il peso di 600 talenti. Il peso dell'oro per i chiodi era di 50 sicli. Anche le camere superiori le rivestì d'oro. Nella cella del Santo dei Santi eresse 2 cherubini, opera di scultori, e li rivestì d'oro. Le ali dei cherubini erano lunghe 20 cubiti. Un'ala di uno di essi, lunga 5 cubiti, toccava la parete della cella, mentre l'altra ala, pure della lunghezza di 5 cubiti, toccava l'ala del secondo cherubino. Un'ala dell'altro cherubino, lunga 5 cubiti, toccava la parete della cella, mentre l'altra ala, essendo pure di 5 cubiti, toccava l'ala del primo cherubino. Le ali dispiegate di questi cherubini misuravano 20 cubiti. Essi stavano ritti sui piedi, con la faccia rivolta all'interno. Salomone fece poi la cortina di violetto, di porpora, di cremisi e di bisso, e su di essa fece ricamare cherubini. Di fronte al tempio eresse 2 colonne lunghe 35 cubiti. Il capitello in cima a ciascuna era di 5 cubiti. Fece ghirlande a forma di collana e le pose in cima alle colonne. Fece anche 100 melograne che sospese fra le ghirlande. Rizzò le colonne dinanzi al tempio, una a destra e l'altra a sinistra. Quella di destra la chiamò Jachin e quella di sinistra Boaz. Fece un altare di bronzo lungo 20 cubiti, largo 20 e alto 10. Costruì il mare di metallo fuso, del diametro di 10 cubiti, completamente circolare e alto 5 cubiti. La sua circonferenza era di 30 cubiti tutt'intorno. Sotto l'orlo vi erano figure simili a buoi che lo circondavano tutt'intorno. Erano 10 per cubito e abbracciavano il mare all'ingiro. 2 serie di buoi erano state fuse insieme col mare. Esso poggiava su 12 buoi, 3 dei quali erano rivolti verso settentrione, 3 verso occidente, 3 verso il meridione e 3 verso oriente. Il mare poggiava su di loro e tutte le loro parti posteriori erano rivolte verso l'interno. Il suo spessore era di 1 palmo. Il suo orlo era lavorato come il bordo di 1 calice di fior di loto. Poteva contenere 3000 bat. Fece 10 conche, collocandone 5 a destra e 5 a sinistra, per le abluzioni. In esse si lavava ciò che serviva all'olocausto, mentre il mare si usava per le abluzioni dei sacerdoti. Fece 10 candelabri d'oro, secondo quanto è prescritto a loro riguardo, e li pose nel tempio 5 a destra e 5 a sinistra. Fece 10 tavole e le collocò nel tempio 5 a destra e 5 a sinistra. Inoltre fece 100 bacinelle d'oro. Edificò l'atrio dei sacerdoti, il grande cortile con le sue porte, che rivestì di bronzo. Il mare lo collocò dal lato destro, ad oriente, verso mezzogiorno. Curam fece le caldaie, le palette e le bacinelle. Egli terminò l'opera che doveva eseguire nel tempio di Dio per il re Salomone. Le 2 colonne, i 2 globi dei capitelli posti in cima alle colonne, i due intrecci destinati a coprire i due globi dei capitelli posti in cima alle colonne, le 400 melagrane per i due intrecci, due file di melagrane per ciascun intreccio, per coprire i due globi dei capitelli posti in cima alle colonne, le 10 basi e le 10 conche sulle basi, un mare e sotto di esso 12 buoi, le pentole, le palette, le bacinelle e tutti gli oggetti accessori che Curam Abi fece di bronzo lucente per il re Salomone, per il Tempio del Signore. Il re li fece fondere nella regione del Giordano, al guado di Adam, tra Succot e Zereda. Salomone fece tutti questi oggetti in grande quantità, giacché non veniva calcolato il peso del bronzo. Salomone fece preparare tutti gli oggetti destinati alla casa di Dio, l'altare d'oro, le tavole su cui si ponevano i pani dell'offerta, i candelabri e le loro lampade, tutto in oro fino, da accendersi secondo quanto è prescritto davanti alla cella, i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, di quello purissimo, i coltelli, le bacinelle per l'aspersione, le coppe e i braceri di oro fino. Quanto agli ingressi del tempio, tanto le porte interne che mettevano nel santo dei santi, quanto le porte del tempio che mettevano nella navata, erano d'oro. Così fu compiuto tutto il lavoro che Salomone fece eseguire per il Tempio del Signore. Allora Salomone vi introdusse gli oggetti consacrati da Davide suo padre, mentre l'argento, l'oro e ogni suppellettile li depositò nel tesoro del Tempio di Dio. Allora Salomone convocò in Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi delle tribù e i principi delle famiglie israelite, per trasportare l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re tutti gli uomini di Israele per la festa che cade nel settimo mese. Giunti tutti gli anziani di Israele, i leviti sollevarono l'arca, portarono su l'arca, la tenda del convegno e tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li trasportarono i sacerdoti leviti. Il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele convenuta presso di lui davanti all'arca immolarono pecore e buoi in numero tale da non potersi né contare né calcolare. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore nel suo posto, nella cella del tempio, nel santo dei santi, sotto le ali dei cherubini. I cherubini, infatti, stendevano le due ali sul luogo dell'arca e coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe, poi, erano così lunghe che le loro estremità erano visibili dal santo di fronte alla cella, ma non erano visibili dal di fuori. Esse sono rimaste lì fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla all'infuori delle due tavole che Mosè aveva dato sull'Oreb, le tavole dell'alleanza che il Signore aveva concluso con gli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Poi i sacerdoti uscirono dal santo. Tutti i sacerdoti che vi si trovavano si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi. Mentre i leviti cantori al completo, Asaf, Eman, Idutun, con i loro figli e i loro fratelli rivestiti di bisso, stavano ad oriente dell'altare, suonando cembali, arpe e cetre, 120 sacerdoti insieme a loro suonavano le trombe. Quando tutti insieme, trombettieri e cantori, fecero udire la loro voce all'unisono, per lodare e celebrare il Signore, quando alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e di altri strumenti musicali, lodando il Signore, perché è buono, perché eternamente dura il suo amore, allora il tempio si riempì di una nube, della gloria del Signore, così che i sacerdoti non poterono rimanere nel loro servizio a causa della nube, giacché la gloria del Signore aveva riempito il Tempio di Dio. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube. Io ti ho costruito una dimora sublime, un luogo ove tu possa abitare in eterno». Il re si volse e benedisse tutta l'assemblea d'Israele, mentre tutta l'assemblea d'Israele stava in piedi. Disse: «Benedetto sia il Signore, Dio d'Israele, che con la sua potenza ha compiuto quanto con la sua bocca ha promesso a Davide, padre mio. Dal giorno in cui feci uscire il mio popolo dal paese d'Egitto, non ho scelto alcuna città fra tutte le tribù d'Israele perché si edificasse un tempio in cui abitasse il mio nome, e non ho scelto nessuno perché diventasse capo del mio popolo d'Israele, ma ho scelto Gerusalemme perché vi abitasse il mio nome, e ho scelto Davide perché governi il mio popolo d'Israele. Ora Davide, mio padre, aveva in animo di edificare un tempio al nome del Signore, Dio d'Israele. Ma il Signore disse a Davide, padre mio: hai avuto in animo di edificare un tempio al mio nome, hai fatto bene ad avere questa intenzione. Ma non sarai tu ad edificare il tempio, bensì il figlio tuo che uscirà dai tuoi lombi. Sarà lui che edificherà un tempio al mio nome». Il Signore ha pertanto attuato la promessa che aveva fatto. «Io sono succeduto a Davide mio padre, mi sono seduto sul trono d'Israele, come aveva preannunciato il Signore, ed ho edificato il tempio al nome del Signore, Dio d'Israele. Ivi ho collocato l'arca, dov'è l'alleanza che il Signore ha concluso con gli israeliti». Poi, stando davanti all'altare del Signore, al cospetto di tutta l'assemblea d'Israele, distese le mani. Salomone, infatti, aveva eretto una tribuna di bronzo e l'aveva posta in mezzo al cortile. Era lunga 5 cubiti, larga 5 ed alta 3. Egli salì sopra di essa e, inginocchiatosi al cospetto di tutta l'assemblea d'Israele, stese le mani verso il cielo e disse: «Signore, Dio di Israele, non c'è nessun Dio come te, né in cielo né sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la benevolenza verso i tuoi servi che camminano al tuo cospetto con tutto il cuore. Tu hai mantenuto riguardo al tuo servo Davide, mio padre, ciò che gli avevi promesso. Quanto avevi promesso con la bocca, l'hai adempiuto con la tua potenza, come si vede oggi. Ed ora, Signore, Dio d'Israele, mantieni, riguardo al tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso, dicendo: non ti mancherà mai un discendente che stia al mio cospetto e sieda sul trono d'Israele, purché i tuoi figli conservino la loro via, camminando secondo la mia legge, come tu hai fatto al mio cospetto. Ora dunque, Signore, Dio d'Israele, si adempia la parola che hai rivolto al tuo servo Davide. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli ed i cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto meno questa casa che ho edificato. Volgiti tuttavia, o Signore mio Dio, alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Ascolta il grido e la preghiera che il tuo servo innalza al tuo cospetto. Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa giorno e notte, verso il luogo in cui hai detto di voler porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge in questo luogo. ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Tu ascolta dal luogo della tua dimora, dal cielo. Ascolta e perdona. Se qualcuno pecca contro il suo prossimo e gli viene imposto un giuramento di maledizione, e questi si presenta a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascoltalo dal cielo e agisci, fa giustizia tra i tuoi servi, ripaga il colpevole facendo ricadere sul suo capo la sua condotta e dichiara innocente il giusto, trattandolo secondo la sua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se si converte, loda il tuo nome, prega e supplica al tuo cospetto in questo tempio, tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo ritornare nel paese che desti loro e ai loro padri. Quando si chiuderà il cielo e non vi sarà pioggia, perché hanno peccato contro di te, se ti pregano in questo luogo e lodano il tuo nome, si ravvedono dal loro peccato, perché tu li hai umiliati, tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, insegnando loro la strada buona per la quale camminare. Concedi la pioggia alla tua terra, che hai dato in eredità al tuo popolo. Quando nel paese vi sarà carestia, quando vi sarà peste, arsura o ruggine, cavallette o bruchi, quando il nemico stringerà d'assedio il tuo popolo in una delle sue porte, in ogni calamità e in ogni epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che qualsiasi individuo e tutto il tuo popolo Israele farà dopo aver fatto l'esperienza del castigo e del dolore, stendendo le mani verso questo tempio, tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, perdona e retribuisci ad ognuno secondo la sua condotta, tu che ne conosci il cuore, poiché tu solo conosci il cuore dei figli degli uomini. Fa sì che ti temano e camminino nelle tue vie durante tutti i giorni della loro vita sulla faccia della terra che hai dato ai nostri padri. Anche lo straniero che non appartiene al tuo popolo Israele, se viene da un paese lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio spiegato, se viene a pregare in questo tempio, tu ascolta dal cielo, dal luogo della tua dimora, e fa secondo tutto quello che ti chiederà lo straniero, perché tutti i popoli della terra riconoscano il tuo nome, ti temano come il tuo popolo Israele, e sappiano che il tuo nome è stato invocato su questo tempio che io ho edificato. Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via sulla quale lo avrai diretto, se ti pregano rivolti verso questa città che hai scelto e verso il tempio che ho edificato al tuo nome, ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e fa loro giustizia. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi, e tu, adirato contro di loro, li consegnerai al nemico ed i loro conquistatori li deporteranno in un paese lontano o vicino. Se nel paese in cui saranno stati deportati rientrano in se stessi, si convertono e ti supplicano nel paese della loro prigionia, dicendo: abbiamo peccato, abbiamo agito iniquamente, abbiamo commesso impietà. Se dunque si convertono a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, nel paese della loro prigionia nel quale li avranno deportati, e ti supplicano, rivolti verso la loro terra che tu hai dato ai loro padri, verso la città che hai scelto ed il tempio che ho edificato al tuo nome, ascolta dal cielo, dal luogo della tua dimora,

se camminerai al mio cospetto come ha camminato Davide, tuo padre, facendo tutto ciò che ti ho comandato e osservando i miei precetti e i miei decreti, renderò stabile il trono del tuo regno secondo quanto ho pattuito con Davide, tuo padre, dicendo: non ti mancherà un discendente che domini su Israele. Ma se voi vi volgerete indietro, abbandonerete i miei precetti e i miei comandamenti che vi ho proposto, e andrete a servire gli dei stranieri, e vi prostrerete davanti ad essi, vi sterminerò dalla mia terra che vi ho dato, e rigetterò dal mio cospetto questo tempio che ho consacrato al mio nome, e lo farò diventare una favola ed un oggetto di scherno fra tutti i popoli. Quanto a questo tempio, già così eccelso, chiunque passerà accanto rimarrà stupito e dirà: perché il Signore ha agito così con questo paese e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, il Dio dei loro padri, che li ha fatti uscire dal paese d'Egitto, ed hanno aderito a dei stranieri, prostrandosi davanti a loro e servendoli. Per questo egli ha fatto venire su di loro tutta questa sventura. Trascorsi 20 anni, durante i quali aveva edificato il Tempio del Signore ed il proprio palazzo, Salomone ricostruì le città che Curam gli aveva dato e vi stabilì gli israeliti. Salomone marciò contro Camat di Zoba e la conquistò. Ricostruì Palmira nel deserto e tutte le città di rifornimento che aveva edificato nella regione di Camat. Riedificò Bet Oron superiore e Bet Oron inferiore, città fortificate con mura, porte e catenacci. Inoltre Baalat e tutte le città di rifornimento che erano di sua proprietà. Poi tutte le città dei carri e della cavalleria. Insomma, tutto quanto gli sembrò bene di costruire a Gerusalemme, nel Libano, e in tutto il territorio sottomesso al suo dominio. Tutti quelli che rimanevano degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, degli Evei e dei Gebusei, che non erano israeliti, cioè i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese, non essendo stati sterminati dagli israeliti, Salomone li prelevò per il servizio, ciò che avviene ancor oggi. Ma tra i figli di Israele Salomone non impiegò nessuno come schiavo per il lavoro, perché questi erano guerrieri, capi dei suoi scudieri, capi dei suoi carri e della sua cavalleria. Questi capi di prefetti del re Salomone erano 250. Essi sorvegliavano il popolo. Salomone trasferì la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che aveva costruito per lei, perché pensava: non deve abitare una donna per me nella casa di Davide, re di Israele, giacché è sacro ogni luogo in cui è venuta a posarsi l'arca del Signore. Allora Salomone offrì olocausti al Signore sull'altare del Signore che aveva edificato di fronte al vestibolo. Offrì olocausti secondo l'ordinamento quotidiano, seguendo il comando di Mosè, nei sabati, nei noviluni e nelle tre feste annuali, cioè nella festa degli azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. Dispose poi, secondo l'ordinamento di Davide, suo padre, le classi dei sacerdoti per il loro servizio e i leviti nelle loro funzioni di lodare Dio ed officiare in presenza dei sacerdoti giorno per giorno. Dispose ugualmente i portieri, secondo le loro classi, ad ogni singola porta, perché così aveva comandato Davide, uomo di Dio. Non ci si allontanò in nulla dalle disposizioni del re riguardo ai sacerdoti ed ai leviti, e nemmeno in ciò che concerne i tesori. Così fu condotta a termine tutta l'opera di Salomone, dal giorno in cui fu fondato il Tempio del Signore fino al suo definitivo compimento. Allora Salomone si recò ad Ezion Geber e ad Elat, sulla riva del mare, nel paese di Edom. Curam, per mezzo dei suoi marinai, gli inviò navi e uomini esperti del mare. Questi, insieme con i marinai di Salomone, andarono a Ofir e vi presero 450 talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Ora la regina di Saba, udita la fama di Salomone, venne a Gerusalemme per mettere alla prova Salomone con enigmi, con un seguito numerosissimo, con cammelli carichi di aromi, di oro in gran quantità e di pietre preziose. Presentatasi a Salomone, parlò con lui di tutto ciò che le stava a cuore. Salomone rispose a tutte le sue questioni e nessuna rimase occulta a Salomone, in modo da non potergliela spiegare. Quando la regina di Saba vide la sapienza di Salomone, il palazzo che aveva costruito, le pietanze della sua mensa, la dimora dei suoi servi, la tenuta dei suoi ministri e le loro divise, i suoi coppieri e le loro vesti e gli olocausti che offriva nel tempio del Signore, restò senza respiro. Disse al re: «Era dunque vero ciò che avevo sentito nella mia terra circa le tue imprese e la tua sapienza. Non volli credere a ciò che si diceva finché non sono giunta qui ed i miei occhi hanno visto. Orbene, non mi fu riferita neppure la metà della grandezza della tua sapienza. Tu superi la fama di cui avevo sentito parlare. Beati i tuoi uomini e beati questi tuoi servi che stanno continuamente alla tua presenza e ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto il Signore, tuo Dio, che si è compiaciuto in te e ti ha posto sul suo trono come re per il Signore, tuo Dio. Giacché il tuo Dio ama Israele e vuole che resti per sempre, ti ha posto quale re sopra di loro per esercitare il diritto e la giustizia». Indi ella fece dono al re di 120 talenti d'oro, aromi in grande quantità e pietre preziose. Non ci furono mai aromi come quelli che la regina di Saba diede al re Salomone. I servi di Curam e i servi di Salomone, che avevano trasportato oro da Ofir, portarono legname di sandalo e pietre preziose. Col legname di sandalo il re fece le scale per il tempio del Signore e per il palazzo reale, inoltre cetre e arpe per i cantori. Nel paese di Giuda non si era visto prima nulla di simile. Il re Salomone diede alla regina di Saba tutto ciò che desiderò e chiese, oltre all'equivalente di quanto ella aveva portato al re. Quindi se ne ritornò nel suo paese, lei e i suoi servitori. Il peso dell'oro che giungeva a Salomone in un solo anno era di 666 talenti d'oro, senza tener conto dei contributi dei trafficanti e dei commercianti. Tutti i re dell'Arabia ed i governatori del paese portavano oro ed argento a Salomone. Il re Salomone fece fare 200 grandi scudi di oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 600 sicli d'oro, e 300 scudi minori di oro battuto, per ognuno dei quali adoperò 300 sicli d'oro. Il re li depose nel palazzo della foresta del Libano. Il re fece anche un grande trono d'avorio, che ricoprì di oro puro. Il trono aveva 6 gradini e uno sgabello d'oro, braccioli da una parte e dall'altra del sedile e 2 leoni che stavano a fianco dei braccioli. 12 leoni stavano sui 6 gradini, di qua e di là. In nessun regno fu mai eseguito qualcosa di simile. Tutto il vasellame per bere appartenente al re Salomone era d'oro e tutta la suppellettile del palazzo della foresta del Libano era d'oro fino. Al tempo di Salomone l'argento non era stimato per niente. Il re, infatti, possedeva navi che andavano a Tarsis con i marinai di Curam. Ogni 3 anni le navi da Tarsis ritornavano cariche d'oro, d'argento, d'avorio, di scimmie e di pavoni. Il re Salomone superò tutti i re della terra per ricchezza e sapienza. Tutti i re della terra desideravano essere ammessi alla presenza di Salomone per ascoltare la sapienza che Dio gli aveva posto nel cuore. Ognuno di essi, e ciò anno per anno, gli portava il proprio dono, oggetti d'argento e oggetti d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. Salomone ebbe 4.000 mute di cavalli e di carri e 12.000 cavalieri, che distribuì nelle città dei carri e presso il re a Gerusalemme. Egli dominò su tutti i re, dal fiume Eufrate fino al paese dei Filistei e fino al confine dell'Egitto. Il re fece in modo che in Gerusalemme l'argento fosse come i sassi ed i cedri come i sicomori, così numerosi nella Sefela. Da Musri e da tutti i paesi si importavano cavalli per Salomone. Il resto delle gesta di Salomone, le prime e le ultime, non sono forse scritte negli atti di Natan profeta e nella profezia di Achia di Silo e nelle visioni del veggente Iddo riguardanti Geroboamo figlio di Nebat? Salomone regnò in Gerusalemme su tutto Israele per 40 anni. Poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre. Al suo posto divenne re Roboamo, suo figlio. Roboamo si recò a Sichem, giacché tutto Israele era convenuto a Sichem per proclamarlo re. Appena lo seppe, Geroboamo, figlio di Nebat, che stava in Egitto, dove era fuggito lontano dal re Salomone, fece ritorno dall'Egitto. Lo mandarono a chiamare e Geroboamo arrivò con tutto Israele. Allora parlarono a Roboamo in questo modo: tuo padre ha reso pesante il nostro giogo. Tu ora alleggerisci la dura schiavitù del padre tuo ed il giogo pesante che impose sopra di noi, e noi ti serviremo. Egli rispose loro: ritornate da me fra 3 giorni. Il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò con gli anziani che erano stati al servizio di Salomone suo padre quando era ancora in vita e domandò: come mi consigliate di rispondere a questo popolo? Gli risposero: se oggi ti dimostri benevolo verso questo popolo e darai loro soddisfazione rivolgendo loro parole gentili, essi saranno tuoi servi per sempre. Ma egli ripudiò il consiglio che gli anziani gli avevano suggerito e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui e stavano al suo servizio. Domandò loro: che cosa mi consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato così? Alleggerisci il giogo che tuo padre ha imposto sopra di noi? I giovani che erano cresciuti con lui gli risposero: così dirai al popolo che si è rivolto a te dicendo: il padre ha appesantito il nostro giogo, tu alleggeriscilo. Così dirai loro: il mio mignolo è più grosso dei lombi di mio padre. Or se mio padre vi ha caricato di un giogo pesante, io lo renderò ancora più pesante. Mio padre vi castigò con le sferze, io lo farò con gli scorpioni. Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il 3° giorno, come aveva prescritto il re, dicendo: ritornate da me il 3° giorno. Il re rispose loro duramente. Ripudiando il consiglio degli anziani, il re Roboamo parlò loro secondo il consiglio dei giovani. Mio padre ha reso pesante il vostro giogo, io lo aggraverò. Mio padre vi castigò con le sferze, io lo farò con gli scorpioni. Il re non ascoltò il popolo. Ciò avvenne per disposizione divina,

Ora voi pensate di tener testa al regno del Signore, che è nelle mani dei figli di Davide, perché voi siete una grande moltitudine, e avete con voi i vitelli d'oro che Geroboamo vi ha costruito come vostro Dio. Non avete voi forse scacciato i sacerdoti del Signore, figli di Aronne, e i Leviti, e non vi siete costituiti sacerdoti come i popoli degli altri paesi? Chiunque si presenta con un giovenco di armento o con 7 montoni per ricevere l'investitura diventa sacerdote di chi non è Dio. Quanto a noi, il Signore è nostro Dio, non l'abbiamo abbandonato. I sacerdoti che prestano servizio al Signore sono figli di Aronne, mentre per il ministero vi sono i Leviti. Essi offrono al Signore ogni mattina e ogni sera olocausti, profumi d'incenso, i pani dell'offerta su una tavola pura. Dispongono i candelabro d'oro con le sue lampade da accendersi ogni sera, perché noi osserviamo le prescrizioni del Signore nostro Dio, mentre voi lo avete abbandonato. Ecco, con noi alla testa c'è Dio e i suoi sacerdoti, e le trombe squillanti stanno per lanciare il grido di guerra contro di voi. Figli di Israele, non fate la guerra contro il Signore, Dio dei vostri padri, perché non avrete successo. Geroboamo li aggirò con un'imboscata per sorprenderli alle spalle. Le truppe stavano di fronte a Giuda, mentre gli imboscati erano alle spalle. Quando quelli di Giuda si voltarono, si accorsero di dover combattere di fronte e dalle spalle. Allora essi gridarono al Signore, e i sacerdoti suonarono le trombe. Gli uomini di Giuda lanciarono il grido di guerra, e mentre quelli di Giuda emettevano il grido di guerra, Dio colpì Geroboamo e tutto Israele di fronte ad Abia e a Giuda. Gli israeliti presero la fuga di fronte a Giuda, e Dio li consegnò nelle loro mani. Abia ed il suo esercito inflissero loro una grave sconfitta. 500.000 uomini scelti caddero morti fra gli israeliti. In quel tempo furono umiliati gli israeliti, mentre quelli di Giuda si rafforzarono, perché si erano appoggiati sul Signore, Dio dei loro padri. Abia inseguì Geroboamo e gli tolse queste città: Betel con le sue dipendenze, Jesana con le sue dipendenze, Efron con le sue dipendenze. Durante la vita di Abia, Geroboamo non poté riprendere forza. Dio lo colpì ed egli morì. Abia invece si rafforzò. Prese 14 mogli e generò 22 figli e 16 figlie. Il resto delle gesta di Abia, la sua condotta e le sue azioni, sono descritte nelle memorie del profeta Iddo. Abia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto divenne re Asa, suo figlio. Ai suoi tempi il paese fu tranquillo per 10 anni. Asa fece ciò che è buono e giusto agli occhi del Signore suo Dio. Rimosse gli altari stranieri e le alture, distrusse le stele e infranse i pali sacri. Ordinò a Giuda di ricercare il Signore, Dio dei loro padri, e di mettere in pratica la legge ed i comandamenti. Da tutte le città di Giuda rimosse le alture ed i cippi solari. Il regno godette tranquillità sotto di lui. Ricostruì in Giuda le città fortificate, poiché il paese era tranquillo, e in quegli anni non si trovava in guerra, giacché il Signore gli aveva concesso quiete. Egli disse a Giuda: «Riedificheremo queste città, circondandole di mura, di torri, porte e sbarre, mentre il paese è ancora a nostra disposizione, avendo noi ricercato il Signore Dio nostro. L'abbiamo ricercato ed egli ci ha concesso pace tutto intorno». Essi, dunque, riedificarono ed ebbero successo. Asa disponeva di un esercito di 300.000 uomini in Giuda, che portavano grande scudo e lancia, e di 280.000 in Beniamino, che portavano piccolo scudo e tiravano l'arco. Tutti questi erano valorosi guerrieri. Contro di loro marciò Zerach l'Etiope, con un esercito di 1.000.000 di uomini e con 300 carri, e si spinse fino a Maresa. Asa gli andò incontro e si schierarono in battaglia nella valle di Zefata, presso Maresa. Asa invocò il Signore, suo Dio. Signore, per te non c'è differenza tra il soccorrere un potente o uno privo di forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, perché noi ci appoggiamo su di te e nel tuo nome ci siamo mossi contro questa moltitudine. Un uomo non prevalga sopra di te. Il Signore sconfisse gli etiopi di fronte ad Asa e di fronte a Giuda, e gli etiopi si diedero alla fuga. Allora Asa e quanti erano con lui li inseguirono fino a Gerar. Degli etiopi caddero tanti che non poterono più riaversi, giacché furono fatti a pezzi di fronte al Signore ed al suo esercito. I primi riportarono un abbondantissimo bottino. Poi conquistarono tutte le città intorno a Gerar, perché su di esse era piombato il terrore del Signore. Saccheggiarono tutte le città nelle quali c'era molto bottino. Assalirono anche le tende dove era il bestiame, facendo razzie di pecore in grande quantità e di cammelli. Indi fecero ritorno a Gerusalemme. Lo spirito di Dio si posò su Azaria, figlio di Oded, che uscì incontro ad Asa, e gli disse: «Ascoltami, Asa, e voi tutti, di Giuda e di Beniamino. Il Signore è con voi se voi siete con Lui, e se lo ricercherete, Egli si lascerà trovare da voi. Ma se voi lo abbandonerete, Egli vi abbandonerà. Per lungo tempo Israele è stato senza vero Dio, senza sacerdote che insegnasse e senza legge, finché nella sua angustia ritornò al Signore Dio d'Israele, lo ricercò ed egli si fece trovare da lui. In quel tempo non c'era sicurezza per quelli che uscivano e quelli che entravano, perché grandi tumulti agitavano gli abitanti delle regioni. Una nazione cozzò contro un'altra, una città contro un'altra, perché Dio li sconvolse con ogni genere di sventura. Ma voi siate forti, le vostre mani non si infiacchiscano, perché ci sarà una ricompensa per le vostre azioni». Quando Asa ebbe udito queste parole e la profezia, si fece animo e rimosse le abominazioni da tutto il territorio di Giuda e di Beniamino e dalle città che aveva conquistato sulle montagne di Efraim, e rinnovò l'altare del Signore che si trovava di fronte al vestibolo del Signore. Inoltre radunò tutto Giuda e Beniamino e quelli di Efraim, di Manasse e di Simeone che soggiornavano presso di loro. Molti, infatti, erano passati a lui da Israele, vedendo che il Signore, suo Dio, era con lui. Si radunarono dunque a Gerusalemme nel terzo mese dell'anno 15° del regno di Asa. In quel giorno furono sacrificati al Signore, dal bottino che avevano preso, 700 buoi e 7.000 pecore. Si obbligarono con un patto a cercare il Signore, Dio dei loro padri, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Chiunque non avesse ricercato il Signore, Dio d'Israele, sarebbe stato messo a morte, piccolo o grande, uomo o donna che fosse. Prestarono giuramento al Signore a gran voce, fra grida di gioia, squilli di trombe e di corni. Tutto Giuda si rallegrò del giuramento, poiché avevano giurato con tutto il loro cuore ed avevano ricercato il Signore con tutto il loro buon volere, ed egli si era lasciato trovare da loro. Il Signore aveva concesso loro tranquillità tutti intorno. Persino Maaca, madre del re Asa, egli destituì dalla dignità di grande signora, perché aveva costruito un orrore per Asera. Asa abbatté l'orrore, lo frantumò e lo bruciò nel torrente Cedron. Ma le alture non furono eliminate da Israele, benché il cuore di Asa fosse integro per tutta la sua vita. Egli fece anche portare nel Tempio di Dio i doni votivi del padre suo ed i propri doni votivi, argento, oro e vasellame. Non ci fu nessuna guerra fino all'anno 35esimo del regno di Asa. Nell'anno 36esimo del regno di Asa, Baasa, re di Israele, mosse contro Giuda e costruì Rama per impedire le comunicazioni con Asa, re di Giuda. Asa tirò fuori dai tesori del Tempio del Signore e del Palazzo Reale argento ed oro e li mandò a Ben-Hadad, re di Aram, residente a Damasco, con queste parole: «Vi sia alleanza tra me e te, come c'era tra il padre mio e il padre tuo. Ecco, ti mando argento ed oro. Orsù, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, in modo che si ritiri da me». Ben-Hadad diede retta al re Asa e mandò contro le città di Israele i capi delle sue forze armate, i quali colpirono Ijon, Dan, Abel-Maim e tutti i magazzini delle città di Neftali. Or quando Baasa ebbe udito ciò, desistette dal fortificare Rama e cessò la sua opera. Allora il re Asa convocò tutti quelli di Giuda, che asportarono le pietre ed il legname coi quali Baasa stava fortificando Rama, e con essi egli fortificò Geba e Mizpa. In quel tempo il veggente Canani si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse: «Poiché ti sei appoggiato sul re di Aram e non sul Signore tuo Dio, l'esercito del re di Aram è sfuggito al tuo potere. Forse che gli Etiopi e i Libici non formavano un grande esercito con abbondantissimi carri e cavalieri, eppure, siccome tu ti sei appoggiato sul Signore, egli li ha consegnati in tuo potere. Difatti il Signore con i suoi occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza verso quelli che hanno un cuore integro a suo riguardo. Ti sei comportato da stolto in questo, per cui d'ora innanzi avrai guerre». Asa si sdegnò contro il veggente e lo fece gettare in carcere, perché era adirato con lui per questa cosa. Inoltre Asa maltrattò in quel tempo anche alcuni del popolo. Ed ecco, le gesta di Asa, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Nell'anno 39esimo del suo regno, Asa si ammalò ai piedi di una malattia estremamente grave. Ma neppure nella sua malattia egli ricercò il Signore, ma solamente i medici. Asa si addormentò con i suoi padri e morì nell'anno 40esimo primo del suo regno. Lo seppellirono nel sepolcro che egli si era fatto scavare nella città di Davide. Fu deposto sopra un letto pieno di aromi e ogni sorta di profumi preparati secondo l'arte della profumeria. Per lui ne bruciarono un'immensa quantità. Al suo posto divenne re Giosafat, suo figlio, il quale consolidò il potere su Israele. Egli stanziò truppe in tutte le città fortificate di Giuda e designò governatori nel territorio di Giuda e nelle città di Efraim che suo padre Asa aveva occupato. Il Signore fu con Giosafat perché egli seguì la primitiva condotta di suo padre e non ricercò i Baal, ma ricercò il Dio del padre suo, osservando i suoi comandamenti, senza seguire il modo di agire di Israele. Il Signore consolidò il regno in suo potere e tutto Giuda portava offerte a Giosafat, che ebbe ricchezza e gloria in abbondanza. Il suo cuore si rafforzò nelle vie del Signore e rimosse anche le alture e i pali sacri da Giuda. Nel terzo anno del suo regno mandò i suoi capi Ben-Cail, Abdia, Zaccaria, Netaneel e Michea ad insegnare nelle città di Giuda. Con essi c'erano i Leviti Semaia, Natania, Zebadia, Asael, Semiraimot, Jonata, Adonia e Tobia, con i sacerdoti Elisama e Ioram. Istruirono Giuda, avendo con sé il libro della legge del Signore. Essi percorsero tutte le città di Giuda, istruendo il popolo. Il terrore del Signore pervase tutti i regni delle regioni che circondavano Giuda, così che non mossero guerra a Giosafat. Tra i Filistei ci furono di quelli che portarono a Giosafat tributi e argento in dono. Anche gli Arabi gli portarono bestiame minuto, 7.700 montoni e 7.700 capri. Giosafat cresceva sempre più in potenza. Egli costruì in Giuda castelli e città di approvvigionamento. Aveva a disposizione molta mano d'opera nelle città di Giuda, ed in Gerusalemme c'erano i guerrieri, uomini valorosi. Questo è il loro censimento secondo il casato. Per Giuda i capi di migliaia erano Adna, il capo, e con lui 300.000 uomini valorosi. Al suo fianco c'era Giovanni, il capo, e con lui 280.000 uomini. Al suo fianco c'era Amasia, figlio di Zicri, che si era votato al Signore, e con lui 200.000 uomini valorosi. Per Beniamino c'era Eliada, uomo valoroso, e con lui 200.000 uomini armati di arco e di scudo. Al suo fianco c'era Josabad, e con lui 180.000 uomini pronti per la guerra. Tutti questi erano al servizio del re, oltre a quelli che il re aveva stabilito nelle città fortificate in tutto Giuda. Giosafat, avendo abbondanza di ricchezza e di gloria, si imparentò con Acab. Dopo alcuni anni scese da Acab in Samaria. Allora Acab immolò per lui e per la gente del suo seguito pecore e buoi in quantità, persuadendolo a marciare insieme contro Ramot di Galaad. Acab, re di Israele, disse a Giosafat, re di Giuda: «Verresti con me contro Ramot di Galaad?» Gli rispose: «Sarà di me come di te, del tuo popolo come del mio popolo, saremo con te nella battaglia». Giosafat disse al re di Israele: «Consulta oggi stesso la parola del Signore». Il re di Israele radunò i profeti, 400 uomini, e disse loro: «Dobbiamo marciare contro Ramot di Galaad per far guerra, o vi debbo rinunciare?» Questi risposero: «Attaccala, Dio la consegnerà nelle mani del re». Giosafat disse: «Non c'è più qui nessun profeta del Signore che possiamo consultare». Il re di Israele rispose a Giosafat: «C'è ancora un uomo per mezzo del quale si può consultare il Signore, ma io lo detesto, perché non profetizza a me il bene, ma sempre il male. Egli è Michea, figlio di Imla». Giosafat soggiunse: «Il re non parli così». Allora il re di Israele chiamò un eunuco e gli disse: «Fa venire presto Michea, figlio di Imla». Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, stavano seduti ognuno sul suo trono, rivestiti dei loro manti. Stavano seduti nell'aia di fronte alla porta di Samaria, mentre tutti i profeti profetizzavano al loro cospetto. Sedecia, figlio di Chenana, che si era fatto delle corna di ferro, disse: «Così dice il Signore, con queste cozzerai contro gli aramei fino a sterminarli». Tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo: «Attacca Ramot di Galaad e vi riuscirai, il Signore la consegnerà in potere del re». Il messaggero che era andato a chiamare Michea gli disse: «Ecco, le parole dei profeti sono concordemente favorevoli al re. Sia la tua parola come quella di ciascuno di essi, e predici il successo». Michea rispose: per la vita del Signore, ciò che dirà il mio Dio, questo io l'annuncerò. Si presentò al re che gli domandò: Michea, dobbiamo marciare contro Ramot di Galaad per far la guerra, o vi debbo rinunciare? Questi rispose: attaccatela, riuscirete. I suoi abitanti saranno dati nelle vostre mani. Il re gli disse: quante volte ti debbo scongiurare di non dirmi altra cosa che la verità nel nome del Signore? Allora egli disse: ho veduto tutto Israele disperso sui monti come pecore senza pastore. Il Signore disse: non hanno padroni, ognuno ritorni in pace a casa sua. Il re di Israele disse a Giosafat: non te l'avevo forse detto che non mi avrebbe profetizzato nulla di buono, ma solo il male? Michea disse ancora: pertanto ascoltate la parola del Signore. Ho visto il Signore seduto sul suo trono, e tutto l'esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra. Il Signore domandò: chi ingannerà Acab, re di Israele, perché marci contro Ramot di Galaad e vi perisca? Chi rispondeva una cosa, chi un'altra. Si fece avanti uno spirito che, postosi davanti al Signore, disse: io lo ingannerò. Il Signore gli disse: come? Rispose: partirò e diventerò uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti i suoi profeti. Il Signore disse: l'ingannerai, certo riuscirai. Va e fa così. Ecco dunque che il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca dei tuoi profeti, mentre il Signore preannuncia il male contro di te. Allora Sedecia, figlio di Chenana, si accostò e percosse Michea sulla guancia, dicendo: per quale via lo spirito del Signore è partito da me per parlare a te? Michea rispose: ecco, tu lo vedrai nel giorno in cui fuggirai di camera in camera per nasconderti. Allora il re di Israele disse: prendete Michea e conducetelo ad Amon, governatore della città, e a Joas, figlio del re. Direte loro: così ordina il re, mettete costui in prigione e nutritelo con poco pane e poca acqua fino a quando ritornerò incolume. Michea disse: se ritornerai incolume, allora il Signore non ha parlato per mio mezzo. Il re di Israele e Giosafat, re di Giuda, marciarono contro Ramot di Galaad. Il re di Israele disse a Giosafat: mi travestirò per andare a combattere, tu invece rivesti i tuoi abiti. Il re di Israele si travestì e andò a combattere. Il re di Aram aveva ordinato ai suoi capi dei carri: non combattete contro nessun altro, ma unicamente contro il re di Israele. Ora, appena i capi dei carri scorsero Giosafat, dissero: è questi il re di Israele. Gli si strinsero intorno per combatterlo. Ma Giosafat emise un grido e il Signore gli venne in aiuto. Dio allontanò quelli da lui. Quando i capi dei carri si accorsero che non era il re di Israele, desistettero dall'inseguirlo. Ma uno, teso per caso l'arco, colpì il re di Israele tra le maglie dell'armatura e della corazza. Il re disse al suo auriga: gira e portami fuori dalla mischia, perché sto male. La battaglia infuriò in quel giorno. Il re di Israele fu sorretto in piedi sul carro di fronte agli aramei fino a sera, quando morì al momento del tramonto del sole. Giosafat, re di Giuda, ritornò incolume a casa sua, a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Canani, gli mosse incontro e disse al re Giosafat: era forse necessario aiutare un empio? Tu ami quelli che odiano il Signore? Per questo è sopra di te lo sdegno da parte del Signore. Tuttavia si riscontrano in te azioni buone, perché hai bruciato i pali sacri nel paese, e hai rivolto il tuo cuore alla ricerca di Dio. Giosafat, dopo un soggiorno in Gerusalemme, si recò di nuovo tra il popolo da Bersabea fino alla montagna di Efraim, riconducendolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel paese, in tutte le città fortificate di Giuda, città per città. Ai giudici ordinò: «Badate a ciò che fate, perché non giudicate per gli uomini, ma per il Signore che è con voi quando fate giustizia. Il timore di Dio sia sopra di voi. Nell'agire, ricordate che nel Signore nostro Dio non c'è malvagità, né accettazione di persone, né accettazione di doni». Anche in Gerusalemme Giosafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capi famiglia di Israele, per il giudizio del Signore e per dirimere le contese degli abitanti di Gerusalemme. Egli ordinò loro: «Agirete nel timore del Signore, secondo verità e col cuore integro. In ogni causa che venga portata davanti a voi da parte dei vostri fratelli che abitano nelle loro città, si tratti di vendetta di sangue o una questione concernente la legge o un comandamento, precetti o sentenze, istruiteli in modo che non si rendano colpevoli davanti al Signore e la sua ira non cada sopra di voi e sopra i vostri fratelli. Agite così e non vi renderete colpevoli». Ecco, Amaria, sommo sacerdote, sarà preposto a voi per ogni causa che riguarda il Signore, mentre Zebadia, figlio di Ismaele, principe della casa di Giuda, lo sarà per ogni causa riguardante il re. Avrete a vostra disposizione i leviti come scribi. Coraggio e all'opera. Il Signore sarà con l'uomo da bene. In seguito, i Moabiti e gli Ammoniti, coadiuvati dai Meuniti, mossero guerra a Giosafat. Andarono ad annunciare a Giosafat: «Contro di te si è mossa una grande moltitudine da oltremare, da Edom. Ecco, si trova a Kazazon Tamar, cioè a Engaddi». Giosafat, nella paura, si mise a cercare il Signore e proclamò un digiuno per tutto Giuda. I giudei si radunarono per cercare aiuto dal Signore. Anche da tutte le città di Giuda si venne a supplicare il Signore. Allora Giosafat si levò in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nel tempio del Signore, di fronte al nuovo cortile, e disse: «Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse tu il Dio che sta nei cieli? Tu domini tutti i regni delle genti. Nelle tue mani sono la forza e la potenza, non c'è nessuno che possa misurarsi con te. Non sei forse tu il nostro Dio che ha espulso gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e l'ha dato per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo? Essi l'abitarono e vi costruirono un santuario per il tuo nome, dicendo: se cadrà sopra di noi la sventura, la spada, l'inondazione, la peste o la carestia, e ci presenteremo davanti a questo tempio e davanti a te, perché il tuo nome risiede in questo tempio, e grideremo a te dalla nostra tribolazione, allora tu ascolterai e ci verrai in soccorso. Ora, ecco, gli Ammoniti e i Moabiti e quelli della montagna di Seir, nelle cui terre non permettesti a Israele di entrare quando uscì dal paese d'Egitto, e perciò esso si tenne lontano da loro e non li sterminò, ecco che essi ci ricompensano venendo a cacciarci dalla tua proprietà che ci hai concesso. Dio nostro, non vorrai fare giustizia di loro, poiché siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi. Non sappiamo cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti verso di te». Tutti i giudei stavano davanti al Signore, compresi i loro bambini, le loro mogli ed i loro figli. Allora, nel mezzo dell'assemblea, lo spirito del Signore si posò su Acaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania. Levita dei figli di Asaf. Questi disse: voi tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat, prestate attenzione, così vi dice il Signore. Non temete e non lasciatevi intimorire davanti a questa grande moltitudine, perché la guerra non è cosa vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro. Ecco, essi saliranno per la salita di Ziz. Voi li incontrerete al termine della valle di fronte al deserto di Jeruel. Non toccherà a voi combattere in questa circostanza. Solo apprestatevi, rimanete fermi e vedrete la salvezza del Signore presso di voi. O Giuda e Gerusalemme, non temete, non lasciatevi impaurire. Domani uscite loro incontro e il Signore sarà con voi. Allora Giosafat si chinò con la faccia a terra. Tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono davanti al Signore per adorarlo. I Leviti, dei figli dei Cheatiti e dei figli dei Corachiti, si alzarono per lodare il Signore Dio d'Israele con voce altissima. La mattina dopo si alzarono presto e partirono per il deserto di Tecoa. Mentre partivano, Giosafat si fermò e disse: ascoltatemi, Giuda e abitanti di Gerusalemme. Credete nel Signore vostro Dio e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e avrete successo. Quindi, consigliatosi con il popolo, pose i cantori del Signore e i salmisti, rivestiti di paramenti sacri, davanti all'armata, perché proclamassero: lodate il Signore, perché eterna è la sua bontà. Appena cominciarono le acclamazioni e la lode, il Signore tese un'imboscata contro gli Ammoniti, i Moabiti e gli abitanti della montagna di Seir, venuti contro Giuda, e furono sconfitti. Gli Ammoniti e i Moabiti insorsero contro gli abitanti della montagna di Seir per votarli allo sterminio e distruggerli. Quando ebbero finito con gli abitanti della montagna di Seir, si aiutarono a distruggersi a vicenda. Quando Giuda giunse al punto dove si vede il deserto e si volse verso la moltitudine, ecco, non c'erano che cadaveri distesi al suolo, nessuno era sfuggito. Giosafat e la sua gente vennero a prendere il loro bottino e vi trovarono bestiame in abbondanza, ricchezze, vestiti e oggetti preziosi. Ne presero tanto da non poterlo trasportare. 3 giorni impiegarono per depredare le spoglie, tanto esse erano numerose. Il 4° giorno si radunarono nella valle di Beracà, perché ivi benedissero il Signore, chiamarono quel luogo valle di Beracà, sino ad oggi. Quindi tutti gli uomini di Giuda e di Gerusalemme, con Giosafat in testa, pieni di gioia, presero la via del ritorno verso Gerusalemme, perché il Signore li aveva fatti gioire a spese dei loro nemici. Entrarono in Gerusalemme con arpe, cetre e trombe fino al tempio del Signore. Il terrore di Dio si sparse su tutti i regni dei paesi quando si seppe che il Signore aveva combattuto contro i nemici di Israele. Il regno di Giosafat fu tranquillo. Il suo Dio gli aveva concesso pace tutto intorno. Giosafat regnò su Giuda. Quando divenne re, aveva 35 anni. Regnò in Gerusalemme 25 anni. Sua madre si chiamava Azuba, figlia di Silchi. Camminò per la via di suo padre Asa e non se ne distaccò, facendo ciò che è giusto agli occhi del Signore. Tuttavia, non scomparvero le alture, ed il popolo non aveva ancora il cuore rivolto verso il Dio dei suoi padri. Il resto delle gesta di Giosafat, le prime come le ultime, ecco, sono descritte negli atti di Jehu, figlio di Canani, inseriti nel libro dei re di Israele. Dopo di ciò, Giosafat, re di Giuda, si alleò con Acazia, re di Israele, per quanto questi agisse empiamente. Egli si associò a lui per per costruire navi capaci di raggiungere Tarsis. Allestirono le navi a Ezion-Geber. Eliezer, figlio di Dodava di Maresa, profetizzò contro Giosafat dicendo: «Poiché ti sei alleato con Acazia, il Signore distruggerà le tue opere». Le navi si sfasciarono e non poterono andare a Tarsis. Giosafat si addormentò con i suoi padri e fu sepolto insieme con loro nella città di Davide. Al suo posto regnò Joram, suo figlio. Egli aveva fratelli, figli di Giosafat: Azaria, Jechiel, Zaccaria, Azariau, Michele e Sefatia. Tutti questi erano figli di Giosafat, re di Israele. Il padre fece ad essi ricche donazioni in argento, oro, oggetti preziosi, insieme a città fortificate in Giuda. Il regno invece lo diede a Joram, perché egli era il primogenito. Ma quando Joram ebbe preso possesso del regno del padre e si rafforzò, uccise di spada tutti i suoi fratelli ed anche alcuni capi di Israele. Quando divenne re, Joram aveva 32 anni. Regnò in Gerusalemme 8 anni. Seguì la condotta dei re di Israele, come aveva fatto la casa di Acab. Egli, infatti, aveva per moglie una figlia di Acab. Fece ciò che è male agli occhi del Signore. Tuttavia, il Signore non volle distruggere la casa di Davide, a causa dell'alleanza che aveva concluso con Davide, e in conformità alla promessa fattagli di concedere per sempre una lampada a lui ed ai suoi figli. Durante il suo regno, Edom si ribellò al dominio di Giuda e si costituì un re. Allora Joram, con i suoi capi e con tutti i suoi carri, passò la frontiera e, assalendoli di notte, sconfisse gli Edomiti che avevano accerchiato lui e i comandanti dei carri. Ma Edom si rese indipendente dal dominio di Giuda fino al giorno d'oggi. In quel tempo anche Libna si ribellò al suo dominio, perché Joram aveva abbandonato il Signore, Dio dei suoi padri. Anche egli, poi, eresse delle alture sui monti di Giuda, spingendo alla prostituzione gli abitanti di Gerusalemme e seducendo Giuda. Ma gli pervenne uno scritto da parte del profeta Elia, che diceva: «Così parla il Signore Dio di Davide, tuo padre. Poiché non hai seguito la condotta di Giosafat, tuo padre, né la condotta di Asa, re di Giuda, ma hai seguito piuttosto la condotta dei re di Israele, ed hai indotto alla prostituzione Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, come ha fatto la casa di Acab. Inoltre, hai ucciso i tuoi fratelli, quelli della famiglia di tuo padre, che erano migliori di te. Ecco che il Signore sta per colpire con un grande disastro il tuo popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutto ciò che ti appartiene. Quanto a te, sarai colpito da gravi malattie, una malattia intestinale tale che per essa le tue viscere ti usciranno fuori in 2 giorni. Il Signore eccitò contro Joram l'ostilità dei Filistei e degli Arabi che abitano a fianco degli Etiopi. Questi marciarono contro Giuda e, dopo averlo invaso, catturarono tutti i beni che si trovavano nella casa reale, compresi i figli e le mogli del re. Non gli rimase più alcun figlio, ad eccezione di Acazia, il più piccolo. Dopo tutto ciò, il Signore lo colpì con una malattia incurabile agli intestini. Andò avanti così per 2 anni. Alla fine del 2° anno gli uscirono fuori le viscere per effetto della malattia e morì in mezzo ad atroci sofferenze. Il suo popolo non gli fece un rogo come si era fatto per i suoi padri. Quando divenne re aveva 32 anni, regnò in Gerusalemme per 8 anni. Se ne andò senza lasciare rimpianto e fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Gli abitanti di Gerusalemme proclamarono re al suo posto suo figlio minore Acazia, perché tutti i più anziani erano stati uccisi da una banda che era penetrata nell'accampamento insieme con gli arabi. Così divenne re Acazia, figlio di Joram, re di Giuda. Quando divenne re, Acazia aveva 22 anni, regnò un anno in Gerusalemme, e il nome di sua madre era Atalia, figlia di Omri. Anche egli seguì la condotta della casa di Acab, giacché era sua madre a consigliarlo a far male. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come faceva la casa di Acab, perché, dopo la morte di suo padre, questi furono, per sua rovina, i suoi consiglieri. Dietro il loro consiglio, marciò in guerra insieme con Joram, figlio di Acab, re di Israele, contro Cazael, re di Aram, in Ramot di Galaad. Gli aramei ferirono Joram, il quale ritornò a curarsi in Israel per le ferite ricevute a Ramot, combattendo contro Cazael, re di Aram. Acazia, figlio di Joram, re di Giuda, scese a visitare Joram, figlio di Acab, in Israel, perché questi era sofferente. Fu per volere di Dio che Acazia, per sua rovina, si recò da Joram. Infatti, quando vi giunse, partì con Joram incontro a Jehu, figlio di Nimsi, che il Signore aveva unto per sopprimere la famiglia di Acab. Mentre faceva giustizia della famiglia di Acab, Jehu incontrò i capi di Giuda e i nipoti di Acazia, che gli prestavano servizio, e li uccise. Poi si mise alla ricerca di Acazia, che fu preso mentre cercava di nascondersi in Samaria. Lo condussero da Jehu, che lo uccise. Gli fu data sepoltura, perché si diceva: è figlio di Giosafat, che ricercò il Signore con tutto il suo cuore. Così, nella famiglia di Acazia, nessuno era in grado di regnare. Quando Atalia, madre di Acazia, seppe che suo figlio era morto, si accinse a sterminare tutta la discendenza regale della casa di Giuda. Ma Josabeat, figlia del re, prese Joas, figlio di Acazia, e lo tolse di mezzo ai figli del re destinati alla morte, ponendolo insieme con la sua nutrice in una camera da letto. Così Josabeat, figlia del re Joram, moglie del sacerdote Joiada e sorella di Acazia, lo sottrasse ad Atalia, che non lo uccise. Egli rimase con lei nel tempio di Dio, nascosto per 6 anni. Frattanto, Atalia regnava nel paese. Il 7° anno, Joiada, fattosi coraggio, prese i capi di centinaia, cioè Azaria, figlio di Jerocam, Ismaele, figlio di Giovanni, Azaria, figlio di Obed, Maaseia, figlio di Adaia, ed Elisafat, figlio di Zicri, e strinse con essi un patto. Essi percorsero Giuda e radunarono i Leviti da tutte le città di Giuda e i capi dei casati di Israele. Costoro vennero a Gerusalemme. Tutta l'assemblea concluse un patto con il re nel tempio di Dio, e Joiada disse loro: ecco il figlio del re, egli regnerà come il Signore ha promesso ai figli di Davide. Questo è ciò che dovete fare: la terza parte di voi, che prestano servizio il sabato come sacerdoti e leviti, farà la guardia alle soglie; un'altra terza parte starà nel palazzo del re, e un terzo alla porta della fondazione, mentre tutto il popolo starà nei cortili del tempio del Signore. Nessuno entri nel tempio del Signore, ad eccezione dei sacerdoti e dei leviti che sono di servizio. Questi entreranno perché sono consacrati. Tutto il popolo osserverà la prescrizione del Signore. I leviti faranno il cerchio intorno al re, ognuno con le sue armi in mano. Chi entra nel tempio sarà messo a morte. Essi saranno vicini al re dovunque egli vada. I Leviti e tutto Giuda eseguirono tutto ciò che aveva ordinato il sacerdote Ioiada. Ognuno prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il sabato e quelli che ne uscivano, perché il sacerdote Ioiada non aveva licenziato nessuna classe. Il sacerdote Ioiada diede ai capi centuria le lance, le corazze e gli scudi già appartenenti al re Davide e che si trovavano nel tempio del Signore. Poi dispose tutto il popolo, ognuno con la sua asta in pugno, dal lato destro fino al lato sinistro del tempio, lungo l'altare e l'edificio, intorno al re. Allora fece uscire il figlio del re e, imponendogli il diadema e le insegne, lo proclamò re. Ioiada e i suoi figli lo unsero e quindi gridarono: «Viva il re!» Al sentire le grida del popolo che accorreva acclamando il re, Atalia si presentò al popolo nel tempio del Signore. Guardò. Ecco, il re stava sul seggio all'ingresso. I capi e i trombettieri si trovavano attorno al re e tutto il popolo del paese esultava, dando fiato alle trombe. I cantori, con i loro strumenti musicali, davano le indicazioni per le acclamazioni. Atalia si strappò le vesti e gridò: «Tradimento! Tradimento!» Il sacerdote Ioiada ordinò ai capi centuria che comandavano la truppa: «Conducetela fuori in mezzo alle file. Chi la segue sia ucciso di spada». Infatti, il sacerdote aveva detto: «Non uccidetela nel tempio del Signore». Le misero sopra le mani e quando arrivò al palazzo reale la uccisero all'entrata della porta dei cavalli. Ioiada concluse un patto tra sé, tutto il popolo ed il re affinché il popolo diventasse un popolo del Signore. Tutto il popolo si recò nel tempio di Baal e lo demolirono, fecero a pezzi i suoi altari e le sue statue, uccisero davanti agli altari il sacerdote di Baal, Mattan. Ioiada affidò la sorveglianza del tempio del Signore ai sacerdoti ed ai leviti che Davide aveva ripartito in classi per il tempio del Signore, onde offrissero olocausti al Signore, come sta scritto nella legge di Mosè, tra gioia e canti, secondo gli ordini di Davide. Stabilì inoltre i portieri alle porte del tempio, perché per nessun motivo potesse entrarvi un impuro. Prese i capi centuria, i notabili, e quanti avevano autorità fra il popolo, come anche tutto il popolo del paese, e fece scendere il re dal tempio del Signore. Attraverso la porta superiore giunsero nella reggia e fecero sedere il re sul trono regale. Tutto il popolo del paese fu in festa, la città rimase tranquilla, benché Atalia fosse stata uccisa a fil di spada. Ioas aveva 7 anni quando divenne re e regnò 40 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Sibia di Bersabea. Ioas fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, finché visse il sacerdote Ioiada. Ioiada gli procurò 2 mogli ed egli generò figli e figlie. In seguito Ioas ebbe in animo di restaurare il tempio del Signore. Radunò i sacerdoti e i leviti e disse loro: «Andate nelle città di Giuda e raccogliete anno per anno da tutti gli israeliti il denaro per riparare il tempio del vostro Dio. Cercate di affrettarvi in quest'opera». Ma i leviti non si diedero premura di ciò. Allora il re convocò Ioiada, loro capo, e gli disse: «Perché non hai richiesto dai leviti che portassero da Giuda e da Gerusalemme la tassa imposta da Mosè, servo del Signore, e fissata dall'assemblea d'Israele per la tenda della testimonianza. Infatti, l'empia Atalia ed i suoi figli hanno dilapidato il tempio di Dio, e persino tutte le cose sante del tempio del Signore le hanno usate per i Baal. Per ordine del re si fece una cassa, che fu posta fuori della porta del tempio del Signore. Indi fu dato il bando in Giuda e in Gerusalemme perché si portasse al Signore la tassa imposta da Mosè, servo di Dio, su Israele nel deserto. Tutti i capi e tutto il popolo se ne rallegrarono e portarono il denaro gettandolo nella cassa fino a riempirla. Quando la cassa veniva portata all'amministrazione reale, affidata ai Leviti, e ci si accorgeva che c'era molto denaro, lo scriba del re e l'ispettore del sommo sacerdote venivano a vuotare la cassa, poi la prendevano e la ricollocavano al suo posto. Facevano così tutti i giorni, raccogliendo denaro in abbondanza. Il re e Ioiada lo diedero ai dirigenti dei lavori del tempio. Essi pagavano gli scalpellini ed i falegnami per restaurare il tempio del Signore, come anche i lavoratori del ferro e del bronzo per riparare il tempio del Signore. I dirigenti dei lavori si misero all'opera. Per mezzo loro le riparazioni progredirono. Il tempio di Dio fu riportato al suo stato normale e fu consolidato. Compiuto il lavoro, portarono davanti al re e a Ioiada il denaro rimasto. Con esso fecero alcuni utensili per il tempio del Signore, vasi per il servizio e per gli olocausti, coppe ed altri oggetti d'oro ed argento. Finché visse Ioiada, si offrirono continuamente olocausti nel tempio del Signore. Ioiada, invecchiatosi, morì sazio di giorni. Aveva 130 anni quando morì. Fu seppellito nella città di Davide insieme ai re, perché aveva agito bene in Israele riguardo a Dio ed al suo tempio. Dopo la morte di Ioiada, i capi di Giuda andarono a riverire il re, che diede loro ascolto. Questi abbandonarono il tempio del Signore Dio dei loro padri per venerare i pali sacri e gli idoli. A causa di questa loro colpa, l'ira di Dio si riversò su Giuda e Gerusalemme. Il Signore inviò loro profeti per farli ritornare a Lui. Questi testimoniavano contro di essi, ma non furono ascoltati. Allora lo Spirito di Dio investì Zaccaria, figlio del sacerdote Ioiada, che si presentò davanti al popolo e disse loro: «Dice Dio, perché trasgredite i precetti del Signore e non avete successo? Poiché avete abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona». Ma quelli congiurarono contro di lui e lo lapidarono per ordine del re nell'atrio del tempio del Signore. Il re Ioas non si ricordò del favore che gli aveva fatto Ioiada, padre di Zaccaria, né uccise il figlio, che morendo disse: «Dio veda e ne chieda conto». Ora avvenne che all'inizio dell'anno seguente l'esercito degli Aramei marciò contro Ioas. Giunti in Giuda e Gerusalemme, sterminarono tra il popolo tutti i suoi capi e ne inviarono l'intero bottino al re di Damasco. Sebbene l'esercito degli Aramei fosse venuto con pochi uomini, il Signore consegnò nelle loro mani un esercito molto numeroso, perché avevano abbandonato il Signore Dio dei loro padri. Così essi fecero giustizia di Ioas. Partitisi da lui, lasciandolo gravemente ammalato, i suoi servi congiurarono contro di lui a causa dell'uccisione del figlio del sacerdote Ioiada e lo uccisero sul suo letto. Morto, lo seppellirono nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Questi sono i congiurati contro di lui: Zabad, figlio di Simeat, ammonita, e Iosabad, figlio di Simrit, moabita. quanto ai suoi figli, all'abbondanza dei tributi da lui raccolti ed al restauro del Tempio del Signore, ecco, ciò sta scritto nelle memorie del Libro dei Re. Al suo posto divenne re suo figlio, Amazia. Amazia divenne re a 25 anni e regnò 29 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Ioaddan, da Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, ma non con cuore perfetto. Quando il regno fu rinsaldato nelle sue mani, egli uccise gli ufficiali che avevano assassinato il re suo padre, ma non mise a morte i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè, il comando del Signore: i padri non moriranno per colpa dei figli, e i figli non moriranno per colpa dei padri, ma ognuno morirà per il suo peccato. Amazia riunì il popolo di Giuda e li distribuì secondo i casati, ponendo tutto Giuda e Beniamino sotto capi di migliaia e capi di centinaia. Poi fece un censimento di quanti avevano 20 anni e più. Trovò che c'erano 300.000 uomini scelti, atti alla guerra, che maneggiavano la lancia e lo scudo. Inoltre, assoldò da Israele 100.000 prodi guerrieri per 100 talenti d'argento. Allora gli si presentò un uomo di Dio, che gli disse: «O re, l'esercito di Israele non si unisca a te, poiché il Signore non è con Israele, con nessuno dei figli di Efraim. Se egli viene, non ti gioverà essere forte in battaglia. Dio ti farà stramazzare davanti al nemico, perché Dio ha il potere di aiutare e di abbattere». Amazia rispose all'uomo di Dio: «Che ne sarà dei 100 talenti che ho dato per la schiera d'Israele?» L'uomo di Dio replicò: «Il Signore può darti molto di più di questo». Allora Amazia congedò la schiera che si era unita a lui da Efraim, perché se ne ritornasse a casa sua. Ma l'ira di costoro si accese vivamente contro Giuda, e se ne ritornarono a casa propria pieni di sdegno. Fattosi animo, Amazia si mise a capo del suo esercito, conducendolo nella valle del Sale, dove sconfisse i figli di Seir in numero di 10.000. Quelli di Giuda ne fecero prigionieri 10.000 vivi e, condottili sulla cima di una roccia, li precipitarono giù. Tutti si sfracellarono. Quanto agli uomini della schiera che Amazia aveva rimandato perché non partecipassero con lui alla battaglia, essi fecero incursioni nelle città di Giuda, da Samaria fino a Bet-Oron, uccidendovi 3.000 persone e facendo un ricco bottino. Dopo che Amazia ritornò dalla strage compiuta sugli Edomiti, fece portare gli dei dei figli di Seir e se li costituì come dei, prostrandosi davanti a loro ed offrendo loro incenso. Ma l'ira del Signore si accese contro Amazia e gli mandò un profeta per dirgli: «Perché ti sei rivolto agli dei che non sono stati capaci di liberare il loro popolo dalla tua mano?» Mentre stava ancora parlando, il re lo interruppe: «Forse ti abbiamo costituito consigliere del re? Smettila, perché ti si dovrebbe uccidere». Il profeta smise, ma poi disse: «So che Dio ha deciso di distruggerti perché hai fatto questo e non hai prestato ascolto al mio consiglio». Preso consiglio, Amazia, re di Giuda, mandò a dire a Joas, figlio di Joacaz, figlio di Jehu, re di Israele: «Orsù, affrontiamoci». Ma Joas, re di Israele, inviò questa risposta a Amazia, re di Giuda: «Il cardo del Libano mandò a dire al cedro del Libano: "Dà la tua figlia in moglie a mio figlio". Ma una bestia selvatica del Libano, passando, calpestò il cardo. Tu ti sei detto: "Ecco, ho sconfitto Edom, e il tuo cuore ti spinge ad inorgoglirti. Ora stattene a casa tua. Perché vorresti provocare una sciagura e cadere tu e Giuda con te?» Ma Amazia non prestò ascolto. Del resto, era volontà di Dio che fossero consegnati nelle mani del nemico, perché si erano rivolti agli dei di Edom. Joas, re di Israele, si mise in marcia, ed ambedue, lui e Amazia, re di Giuda, si scontrarono a faccia a Bet-Semes, che appartiene a Giuda. Giuda fu sconfitto davanti ad Israele, ed ognuno fuggì nella sua tenda. Joas, re di Israele, fece prigioniero a Bet-Semes Amazia, re di Giuda, figlio di Joas, figlio di Acazia. Condottolo a Gerusalemme, aprì una breccia nelle mura di Gerusalemme, dalla porta di Efraim fino alla porta dell'angolo, per 400 cubiti. Prese tutto l'oro, l'argento e tutti gli oggetti che si trovavano nel tempio di Dio, affidati a Obed-Edom, i tesori del palazzo reale e alcuni ostaggi. Quindi ritornò in Samaria. Dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele, Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, visse ancora 15 anni. Il resto delle imprese di Amazia, le prime come le ultime, non sono forse scritte nel libro dei re di Giuda ed Israele? Dopo che Amazia si era allontanato dal Signore, si organizzò una congiura contro di lui in Gerusalemme. Egli fuggì a Lachis, ma fu inseguito a Lachis e quivi ucciso. Lo caricarono su cavalli e lo seppellirono con i suoi padri nella città di Davide. Tutto il popolo di Giuda prese Ozia, che aveva 16 anni, e lo proclamò re al posto di suo padre Amazia. Egli ricostruì Elat, che ricondusse sotto il dominio di Giuda, dopo che il re si era addormentato con i suoi padri. Quando divenne re, Ozia aveva 16 anni, regnò 52 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Jecolia da Gerusalemme. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, come aveva fatto Amazia suo padre. Cercò Dio finché visse Zaccaria, che gli aveva insegnato il timore di Dio. Finché ricercò il Signore, Dio gli diede successo. Uscì in guerra contro i Filistei e smantellò le mura di Gat, di Abne e di Asdot. Costruì piazze forti nella regione di Asdod e dei Filistei. Dio gli venne in aiuto contro i Filistei, contro gli arabi abitanti in Gurbaal e contro i Meuniti. Gli Ammoniti pagavano tributo a Ozia. La sua fama si estese fino alla frontiera dell'Egitto, perché era diventato molto potente. Ozia costruì torri in Gerusalemme, sulla porta dell'angolo, sulla porta della valle e sul cantone, fortificandolo. Costruì torri anche nel deserto e scavò molte cisterne, perché possedeva numeroso bestiame nella Sefela e nell'altipiano. Aveva campagnoli e vignaiuoli sui monti e sulle colline, perché egli amava l'agricoltura. Ozia aveva anche un esercito addestrato per la guerra, pronto a combattere, disposto in schiere secondo il numero del loro censimento, compiuto dallo scriba Jeiel, dall'ispettore Maaseia, agli ordini di Anania, uno degli ufficiali del re. Il numero totale dei capi dei casati di quei prodi guerrieri era di 2600. Da loro dipendeva una forza militare di 307.500 uomini ben addestrati, di grande valore nell'aiutare il re contro il nemico. Ozia forniva loro, cioè a tutto l'esercito, scudi e lance, elmi, corazze, archi e pietre per le fionde. In Gerusalemme egli costruì alcune macchine inventate da un esperto per collocarle sulle torri e sugli angoli, per scagliare frecce e grandi pietre. La sua fama si diffuse lontano, perché fu straordinariamente aiutato, fino a diventare potente. Ma diventato potente, il suo cuore si insuperbì fino a corrompersi. Divenne infedele verso il Signore suo Dio ed entrò nel santuario del Signore per bruciare incenso sull'altare. Dopo di lui entrò il sacerdote Azaria con 80 sacerdoti del Signore, uomini eccellenti. Essi si opposero a Ozia dicendogli: «Non è compito tuo, o Ozia, offrire incenso al Signore, ma dei sacerdoti figli di Aronne, consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario perché hai prevaricato e il Signore Dio non ti ha dato questo onore». Ozia, che aveva in mano l'incensiere per offrire l'incenso, si adirò. Ma mentre si adirava contro i sacerdoti, sulla sua fronte spuntò la lebbra davanti ai sacerdoti nel tempio del Signore presso l'altare dell'incenso. Il sommo sacerdote Azaria e i sacerdoti si volsero verso di lui ed ecco la lebbra sulla sua fronte. Lo fecero uscire in fretta di là, anzi, egli stesso si precipitò per uscire, perché era stato colpito dal Signore. Il re Ozia rimase lebbroso fino al giorno della sua morte ed abitò, come tale, in una casa di isolamento, perché era stato escluso dal tempio del Signore. Suo figlio Jotam dirigeva la reggia e governava il popolo del paese. Il resto delle imprese di Ozia, le prime come le ultime, sono state descritte dal profeta Isaia, figlio di Amoz. Ozia si addormentò con i suoi padri e fu seppellito nel campo presso le tombe dei re, perché si diceva: «È un lebbroso». Al suo posto divenne re Jotam, suo figlio. Quando divenne re, Jotam aveva 25 anni. Regnò 16 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Ierusa, figlia di Zadok. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo in tutto la condotta del suo padre Ozia. Soltanto non entrò nel santuario del Signore. Ma il popolo continuava a corrompersi. Egli restaurò la porta superiore del tempio del Signore e fece molte costruzioni nelle mura dell'Ofel. Fortificò alcune città sulla montagna di Giuda e nelle zone boscose costruì castelli e torri. Fece guerra al re degli Ammoniti e lo vinse. Gli Ammoniti gli diedero in quell'anno 100 talenti d'argento, 10.000 cor di grano ed altrettanti di orzo. Questo gli fu consegnato dagli Ammoniti anche il secondo ed il terzo anno. Jotam divenne potente perché diresse i suoi passi alla presenza del Signore suo Dio. Il resto delle imprese di Jotam, tutte le sue guerre e la sua condotta, ecco, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Quando divenne re, aveva 25 anni e regnò in Gerusalemme 16 anni. Jotam si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Al suo posto divenne re Acaz, suo figlio. Quando divenne re, Acaz aveva 20 anni, regnò in Gerusalemme 16 anni e non fece ciò che è retto agli occhi del Signore, sull'esempio di Davide suo padre. Seguì la condotta dei re d'Israele, fece persino fondere statue per i Baal. Offrì incenso nella valle di Ben Hinnon e bruciò nel fuoco i suoi figli, imitando l'abominazione dei pagani che il Signore aveva cacciato davanti agli israeliti. Sacrificava e offriva incenso sulle alture, sulle colline e sotto ogni albero frondoso. Il Signore suo Dio lo consegnò nelle mani del re degli Aramei, che lo vinsero e fecero un gran numero di prigionieri che furono condotti a Damasco. Fu consegnato anche nelle mani del re di Israele, che gli inflisse una grande sconfitta. Pekach, figlio di Romelia, uccise in un giorno 120.000 uomini in Giuda, tutti valorosi, giacché avevano abbandonato il Signore Dio dei loro padri. Zicri, prode di Efraim, uccise Maaseia, figlio del re, Azricam, prefetto del palazzo, ed Elcana, il secondo dopo il re. Gli israeliti condussero in prigionia, presi ai loro fratelli, 200.000 persone, fra donne, figli e figlie, e tolsero loro anche un abbondante bottino che portarono in Samaria. Era lì un profeta del Signore che si chiamava Oded. Questi andò incontro all'esercito che stava giungendo in Samaria e disse: «Ecco, a motivo del suo sdegno contro Giuda, il Signore, Dio dei vostri padri, li ha consegnati nelle vostre mani, ma voi li avete massacrati con un furore che raggiunge il cielo. Ed ora voi dite che volete soggiogare quali vostri schiavi e schiave gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme, ma non siete proprio voi i colpevoli davanti al Signore, vostro Dio. Pertanto ascoltatemi ora, rimandate i prigionieri che avete catturato tra i vostri fratelli, perché altrimenti il furore dell'ira del Signore si abbatterà su di voi». Allora alcuni dei capi degli Efraimiti, cioè Azaria figlio di Giovanni, Berechia figlio di Mesillemot, Ezechia figlio di Sallum e Amasa figlio di Cadlai, insorsero contro quelli che ritornavano dalla guerra, dicendo loro: «Non dovete portare qui questi prigionieri, perché sopra di noi pesa già una colpa contro il Signore. Voi vi proponete di aumentare i nostri peccati e le nostre colpe, mentre grande è la nostra colpa e una collera ardente grava su Israele». Allora i soldati abbandonarono i prigionieri e il bottino davanti ai capi e da tutta l'assemblea. Quindi alcuni uomini, che erano stati designati per nome, si presero cura dei prigionieri. Quanti erano nudi, li rivestirono grazie al bottino, li calzarono, diedero loro da mangiare e da bere e li unsero. Poi, trasportando con gli asini tutti gli inabili a camminare, li condussero a Gerico, città delle palme, presso i loro fratelli, e se ne ritornarono in Samaria. In quel tempo il re Acaz mandò a chiedere aiuto al re di Assur. Gli Edomiti erano venuti ancora una volta, avevano sconfitto Giuda ed avevano fatto prigionieri. Anche i Filistei avevano invaso le città della Sefela ed il Negeb di Giuda, occupando Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soco con le sue dipendenze, Timna con le sue dipendenze e Gimzo con le sue dipendenze, e vi si erano insediati. Giacché il Signore aveva umiliato Giuda a causa di Acaz, re di Israele, che aveva fatto traviare Giuda ed era stato infedele verso il Signore, anche Tiglat-Pileser, re di Assur, venne contro di lui, opprimendolo, anziché sostenerlo. Acaz aveva spogliato il tempio del Signore e il palazzo del re e dei principi, consegnando tutto al re di Assur, ma non ricevette alcun aiuto. Anche quando era oppresso, quel re Acaz continuò ad essere infedele al Signore. Sacrificò agli dei di Damasco che l'avevano sconfitto, dicendo: «Poiché gli dei dei re di Aram portano loro aiuto, io offrirò ad essi sacrifici ed essi mi aiuteranno». Ma furono essi a provocare la rovina sua e di tutto Israele. Acaz raccolse la suppellettile del tempio di Dio e la frantumò, chiuse le porte del tempio del Signore e si eresse altari in ogni angolo di Gerusalemme. In ciascuna delle città di Giuda fece alture per bruciare l'incenso agli dei stranieri, irritando il Signore, Dio dei suoi padri. Il resto delle sue imprese e di tutte le sue azioni, le prime come le ultime, ecco, sono scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Acaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Gerusalemme, ma non fu collocato nei sepolcri dei re di Israele. Al suo posto divenne re Ezechia, suo figlio. Ezechia divenne re a 25 anni, regnò 29 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Abia, figlia di Zaccaria. Fece ciò che è retto agli occhi del Signore, seguendo tutto ciò che aveva fatto Davide, suo padre. Nel primo anno del suo regno, nel primo mese, egli aprì le porte del Tempio del Signore e le restaurò. Fece venire i sacerdoti ed i leviti, e radunatili nella piazza orientale, disse loro: «Ascoltatemi, o leviti, ora purificatevi e purificate il Tempio del Signore, Dio dei vostri padri, e portate fuori l'impurità dal santuario, perché i nostri padri sono stati infedeli ed hanno operato il male agli occhi del Signore nostro Dio, abbandonandolo, stornando il loro volto dalla dimora del Signore e voltandogli le spalle. Chiusero persino le porte del vestibolo, spensero le lampade, non offrirono né incenso né olocausti nel santuario al Dio d'Israele. Perciò l'ira del Signore è ricaduta su Giuda e su Gerusalemme, facendone un oggetto di terrore, di orrore e di scherno, come potete vedere con i vostri occhi. I nostri padri sono periti di spada, i nostri figli, le nostre figlie e le nostre mogli si trovano per questo in prigionia. Ora io ho deciso di concludere un'alleanza con il Signore, Dio d'Israele, in modo che si allontani da noi il furore della sua ira. Figli miei, ora non rimanete inattivi, perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per servirlo, per essere suoi ministri e offrirgli l'incenso». Allora sorsero i leviti, Macat figlio di Amasai, Gioele figlio di Azaria dei Cheatiti, dei figli di Merari, Chis figlio di Abdi e Azaria figlio di Eallelel, dei Gersoniti Joach figlio di Zimma ed Eden figlio di Joach, dei figli di Elisafan, Simri e Jeiel, dei figli di Asaf, Zaccaria e Mattania, dei figli di Eman, Jechiel e Simei, dei figli di Idutun, Semaia e Uzziel. Essi radunarono i loro fratelli e si purificarono. Poi entrarono, seguendo il comando del re e le prescrizioni del Signore, per purificare il Tempio del Signore. I sacerdoti entrarono all'interno del Tempio del Signore per purificarlo e portarono fuori nel cortile del Tempio del Signore tutta l'impurità che avevano trovato nel santuario del Signore. I leviti poi la presero e la gettarono fuori nel torrente Cedron. Cominciarono la purificazione il primo giorno del primo mese. Nel giorno ottavo del mese entrarono nel vestibolo del Signore, purificarono il Tempio del Signore in 8 giorni e terminarono il giorno 16 del primo mese. Quindi si presentarono al re Ezechia nei suoi appartamenti e gli dissero: «Abbiamo purificato tutto il Tempio del Signore, l'altare degli olocausti con tutte le sue suppellettili e la mensa dell'offerta dei pani con tutte le sue suppellettili. Abbiamo rimesso a posto e purificato tutti gli utensili che il re Acaz aveva profanato durante il suo regno a causa della sua infedeltà. Eccoli ora davanti all'altare del Signore». Allora il re Ezechia, alzatosi di buon mattino, radunò i capi della città e salì al Tempio del Signore. Furono portati 7 tori, 7 montoni, 7 agnelli e 7 capri da offrirsi come sacrificio espiatorio per il regno, il santuario e per Giuda. Il re ordinò ai sacerdoti figli di Aronne di offrirli in olocausto sull'altare del Signore. Immolati i buoi, i sacerdoti ne raccolsero il sangue e lo sparsero sull'altare. Si immolarono i montoni e si sparse il sangue sull'altare. Furono sgozzati gli agnelli e ne sparsero il sangue sull'altare. Quindi furono presentati al re e all'assemblea i capri per il sacrificio espiatorio perché imponessero loro le mani. I sacerdoti li sgozzarono e ne sparsero il sangue quale sacrificio per il peccato sull'altare ad espiazione di tutto Israele, perché il re aveva prescritto l'olocausto ed il sacrificio espiatorio per tutto Israele. Egli, inoltre, dispose i leviti nel tempio del Signore, con cembali, arpe e cetre, secondo le disposizioni di Davide, di Gad, veggente del re, e del profeta Natan, perché l'ordine veniva dato dal Signore attraverso i suoi profeti. I leviti, pertanto, presero posto muniti degli strumenti musicali di Davide e di sacerdoti con le trombe. Allora Ezechia ordinò di immolare gli olocausti sull'altare, e nel momento in cui iniziò l'olocausto, ebbero pure inizio i canti del Signore con le trombe, accompagnati dagli strumenti musicali di Davide, re di Israele. Tutta l'assemblea si prostrò in adorazione, mentre risuonavano i canti e suonavano le trombe. Tutto ciò durò fino alla fine dell'olocausto. Terminato l'olocausto, il re e tutti quelli che stavano insieme a lui si inginocchiarono e si prostrarono. Il re Ezechia ed i capi ordinarono ai leviti di lodare il Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf. Quelli lo lodarono con gioia, inchinandosi e prostrandosi. Ezechia prese la parola e disse: «Ora voi siete totalmente dedicati al Signore. Avvicinatevi e portate le vittime ed i sacrifici di ringraziamento nel tempio del Signore». L'assemblea portò le vittime ed i sacrifici di ringraziamento. Tutti quelli che erano generosi di cuore offrirono olocausti. Il numero degli olocausti offerti dall'assemblea era 70 buoi, 100 montoni, 200 agnelli, tutto ciò in olocausto al Signore. Le offerte sacre furono di 600 buoi e 3000 pecore. I sacerdoti erano troppo pochi e non potevano scorticare tutti gli olocausti, perciò i loro fratelli, i leviti, li aiutarono fino al compimento dell'opera e finché i sacerdoti non si furono purificati. I leviti, infatti, avevano messo più impegno dei sacerdoti a santificarsi. Ci furono anche abbondanti olocausti con il grasso dei sacrifici pacifici e libazioni per gli olocausti. Così fu ristabilito il culto nel tempio del Signore. Ezechia, insieme a tutto il popolo, si allietò, perché Dio aveva ben preparato il popolo, giacché tutto era accaduto in poco tempo. Ezechia inviò messaggeri a tutto Israele e a Giuda, e scrisse anche delle lettere ad Efraim e Manasse, perché venissero nel tempio del Signore a Gerusalemme per celebrare la Pasqua in onore del Signore Dio di Israele. Il re, i suoi capi e tutta l'assemblea di Gerusalemme decisero di celebrare la Pasqua nel secondo mese, perché non avevano potuto celebrarla a suo tempo, dato che i sacerdoti non si erano purificati in numero sufficiente ed il popolo non si era radunato in Gerusalemme. La decisione parve giusta al re e a tutta l'assemblea. Stabilirono perciò di diffondere un bando in tutto Israele, da Bersabea fino a Dan, perché si recassero a celebrare la Pasqua in Gerusalemme in onore del Signore Dio d'Israele, perché non molti l'avevano celebrata come era stato prescritto. I cursori, muniti di lettere da parte del re e dei suoi capi, percorsero tutto Israele e Giuda, proclamando, secondo l'ordine del re: «Israeliti, ritornate al Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, perché egli ritorni a quanti rimangono tra di voi superstiti dalla mano dei re di Assiria. Non siate come i vostri padri ed i vostri fratelli, che furono infedeli al Signore Dio dei loro padri, e per questo li consegnò alla desolazione, come voi vedete. Ora non indurite la vostra cervice come i vostri padri, Date la mano al Signore, venite nel suo santuario, che egli ha consacrato per sempre, e servite al Signore vostro Dio, perché si allontani da voi il furore della sua ira. Giacché, se voi fate ritorno al Signore, i vostri fratelli ed i vostri figli troveranno misericordia al cospetto di quelli che li hanno deportati, e ritorneranno in questo paese, perché il Signore vostro Dio è clemente e misericordioso e non distoglierà il suo volto da voi, se voi fate ritorno a Lui. I cursori passarono di città in città nel territorio di Efraim e Manasse fino a Zabulon, ma la gente li canzonava e si faceva beffa di loro. Tuttavia, alcuni uomini di Aser, Manasse e Zabulon si umiliarono recandosi a Gerusalemme. Anche in Giuda si manifestò la potenza del Signore, dando loro un cuore solo per eseguire l'ordine del re e dei capi, secondo la parola del Signore. Si riunì a Gerusalemme una grande folla per celebrare la festa degli azimi nel secondo mese. L'assemblea era assai numerosa. Iniziarono col rimuovere gli altari che si trovavano in Gerusalemme. Rimossero anche gli altari dei profumi che furono gettati nel torrente Cedron. Indi immolarono la Pasqua il 14 del secondo mese. I sacerdoti ed i leviti, pieni di confusione, si erano purificati e presentarono gli olocausti nel tempio del Signore. Si misero ai loro posti secondo le loro regole, come fissato nella legge di Mosè, uomo di Dio. I sacerdoti spargevano il sangue, ricevendolo dalle mani dei leviti, giacché molti nell'assemblea non si erano purificati, ed i leviti avevano il compito di immolare gli agnelli pasquali per tutti quelli che non erano puri, per consacrarli al Signore. Difatti, una gran parte della gente di Efraim, Manasse, Issacar e Zabulon non si era purificata ed avevano mangiato la Pasqua senza seguire le prescrizioni. Perciò Ezechia pregò per essi che il Signore, nella sua bontà, perdonasse quanti avevano disposto il loro cuore a ricercare Dio, cioè il Signore Dio dei loro padri, anche senza la purità che il santuario esigeva. Il Signore ascoltò Ezechia e risparmiò il popolo. Gli israeliti che si trovavano in Gerusalemme celebrarono la festa degli azimi durante 7 giorni con grande gioia, mentre i leviti ed i sacerdoti lodavano ogni giorno il Signore con tutte le loro forze. Ezechia incoraggiò tutti i leviti che avevano dimostrato grande intelligenza nel servizio del Signore. Così terminarono la festa di 7 giorni offrendo sacrifici pacifici e rendendo grazie al Signore, Dio dei loro padri. Tutta l'assemblea decise di festeggiare ancora 7 altri giorni. Così passarono ancora 7 giorni nella gioia. Difatti Ezechia, re di Giuda, aveva offerto all'assemblea 1.000 tori e 7.000 pecore. Anche i capi avevano offerto all'assemblea 1.000 buoi e 12.000 pecore. I sacerdoti si erano purificati in gran numero. Tutta l'assemblea di Giuda, i sacerdoti, i leviti, tutto il gruppo di coloro che erano venuti da Israele, gli stranieri venuti dalla terra di Israele e quelli che abitavano in Giuda, furono ripieni di gioia. Vi fu in Gerusalemme una grande letizia, perché dal tempo di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, non era avvenuto nulla di simile in Gerusalemme. I sacerdoti ed i leviti si misero a benedire il popolo. Si udì la loro voce e la loro preghiera pervenne alla sua santa dimora nel cielo. Terminato tutto ciò, tutti gli israeliti che si trovavano lì partirono per le città di Giuda per far a pezzi le stele, infrangere i pali sacri, abbattere le alture e gli altari in tutto Giuda, in Beniamino, Efraim e Manasse, fino alla completa distruzione. Indi tutti gli israeliti se ne tornarono nelle proprie città, ognuno nella sua proprietà. Ezechia ristabilì le classi dei sacerdoti e dei leviti in base alle loro classi, ognuno secondo il proprio ufficio, fosse egli sacerdote o levita, per l'olocausto e per i sacrifici, per ringraziare, lodare e servire alle porte dell'accampamento del Signore. La parte che il re prelevava sui suoi beni era destinata per gli olocausti, olocausti del mattino e della sera, olocausti per i sabati, per i noviluni e le solennità, secondo ciò che è scritto nella legge del Signore. Poi ordinò al popolo e agli abitanti di Gerusalemme di consegnare la parte dei sacerdoti e dei leviti, perché fossero in grado di attendere alla legge del Signore. Appena l'ordine si diffuse, gli israeliti offrirono in abbondanza le primizie del grano, del mosto, dell'olio, del miele e di tutti i prodotti dei campi. Essi offrirono con larghezza la decima di ogni cosa. Gli israeliti ed i giudei che abitavano nelle città di Giuda, anch'essi portarono la decima del bestiame grosso e di quello minuto, come anche la decima delle offerte sante consacrate al Signore loro Dio, e ne fecero tanti mucchi. Si cominciò a fare i mucchi nel terzo mese e si finì nel settimo. Quando Ezechia ed i capi andarono a vedere i mucchi, benedirono il Signore e il suo popolo. Ezechia interrogò i sacerdoti ed i leviti a proposito dei mucchi. Allora Azaria, sommo sacerdote della casa di Zadok, prese la parola e gli disse: «Da quando si cominciò a portare le offerte nella casa del Signore, abbiamo mangiato a sazietà e ne è avanzato in abbondanza, poiché il Signore ha benedetto il suo popolo, e ciò che resta è questa grande quantità». Allora Ezechia ordinò di preparare delle stanze nel tempio del Signore. Quando furono pronte, vi portarono i contributi, cioè le decime e le offerte sante, per porli al sicuro. Il levita Conania ne ebbe la sovrintendenza, mentre suo fratello Simei ebbe il secondo posto. Jechiel, Azaria, Nakat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismachia, Makat e Benaia erano sorveglianti sotto gli ordini di Conania e di Simei suo fratello, per disposizione del re Ezechia, e di Azaria, sovrintendente al tempio. Il levita Core, figlio di Imna, guardiano della porta orientale, era preposto alle offerte volontarie fatte a Dio. Egli doveva distribuire il contributo fatto al Signore e le cose consacrate. Ai suoi ordini c'erano Eden, Miniamin, Giosuè, Semaia, Amaria, Secania, che risiedevano nelle città sacerdotali, per distribuire le parti ai loro fratelli secondo le classi, sia ai grandi che ai piccoli. Ezechia organizzò in gruppi i sacerdoti e i leviti da 30 anni in su, i quali venivano al tempio del Signore secondo il rito di ogni giorno, per svolgere il loro ufficio secondo i loro obblighi, in conformità con le loro classi. L'iscrizione dei sacerdoti sui registri veniva fatta secondo i loro casati, mentre quella dei leviti, a partire da 20 anni in su, secondo le loro funzioni e le loro classi. Erano registrati tutti i loro bambini, le loro mogli, i loro figli e le loro figlie con tutta la comunità, perché attendevano in permanenza alle cose sante. Quanto ai figli di Aronne, i sacerdoti che abitavano nelle campagne suburbane delle loro città, c'erano in ogni città uomini designati per nome, che dovevano fare le distribuzioni ad ogni maschio tra i sacerdoti e ad ogni levita che risultava registrato. Ezechia agì in questo modo in tutta la Giudea, fece ciò che è buono, retto e leale al cospetto del Signore suo Dio. In ogni opera che egli intraprese per il servizio del Tempio di Dio, in favore della legge e dei comandamenti, per ricercare il suo Dio, lo fece con tutto il cuore, e perciò ebbe successo. Dopo questi fatti e prove di fedeltà, giunse Sennacherib, re di Assiria. Entrò in Giudea, assediò le città fortificate ed ordinò di aprirvi delle brecce. Quando Ezechia vide che Sennacherib era arrivato con il proposito di attaccare Gerusalemme, tenne consiglio con i principi e con i suoi prodi per ostruire le acque delle sorgenti che si trovavano fuori della città. Essi lo appoggiarono. Si riunì pertanto una folla di popolo e furono otturate tutte le sorgenti e i corsi d'acqua che scorrevano in mezzo al paese. Perché, si diceva, i re di Assiria dovrebbero venire e trovare acque abbondanti? Egli agì da forte, riparò tutte le mura rovinate, vi eresse sopra le torri e al di fuori un muro esterno. Rafforzò il millo della città di Davide, indi fece preparare giavellotti e scudi in gran numero. Alla testa del popolo pose capi militari, li radunò presso di sé sulla piazza presso la porta della città e così parlò al loro cuore: «Siate forti e fatevi coraggio. Non temete e non spaventatevi di fronte al re di Assiria e di fronte a tutta la moltitudine che è insieme a lui, perché con noi c'è uno più grande che non con lui. Con lui vi è un braccio di carne, mentre con noi c'è il Signore nostro Dio per soccorrerci e combattere le nostre battaglie». Il popolo ebbe fiducia nelle parole di Ezechia, re di Giuda. Dopo di ciò, Sennacherib, re di Assiria, mentre si trovava a Lachis con tutte le sue forze, inviò i suoi servitori a Gerusalemme presso Ezechia, re di Giuda, e presso tutti i giudei che si trovavano a Gerusalemme, per dir loro: «Così parla Sennacherib, re di Assiria. In che cosa riponete la vostra fiducia, assediati come siete in Gerusalemme? Non vi seduce forse Ezechia per consegnarvi alla morte di fame e di sete, quando afferma: il Signore nostro Dio ci libererà dalla mano del re di Assiria? Non è forse lui, Ezechia, che fece rimuovere le sue alture ed i suoi altari, ordinando a Giuda e Gerusalemme: dinanzi ad un unico altare voi vi prosternerete e su di esso offrirete l'incenso? Non sapete forse ciò che ho fatto io ed i miei padri a tutti i popoli dei paesi? Sono stati forse capaci gli dei delle genti di quelle regioni di liberare i loro paesi dalla mia mano? Tra tutti gli dei di quelle nazioni che i miei padri hanno votato all'anatema, chi poté liberare il proprio popolo dalla mia mano? E il vostro Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Ordunque, Ezechia non vi inganni e non vi seduca in questo modo, non prestategli fede. Se infatti nessun Dio di nessuna nazione e regno fu in grado di liberare il suo popolo dalla mia mano e da quella dei miei padri, tanto meno il vostro Dio potrà liberarvi dalla mia mano». I suoi servitori parlarono ancora contro il Signore Dio e contro Ezechia suo servo. Sennacherib aveva scritto una lettera per insultare il Signore Dio d'Israele, parlando contro di lui in questi termini: «Come gli dei delle genti dei vari paesi non hanno liberato i popoli dalla mia mano, così il Dio di Ezechia non libererà il suo popolo dalla mia mano». Gli inviati gridavano a gran voce in lingua giudaica al popolo di Gerusalemme che si trovava sulle mura, per spaventarla e sconvolgerla al fine di poter conquistare la città. Essi parlavano del Dio di Gerusalemme come di uno degli dei dei popoli della terra, che sono opera delle mani dell'uomo. Ma il re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amoz, si misero a pregare a questo proposito, gridando verso il cielo. Allora il Signore inviò un angelo che sterminò tutti i prodi guerrieri, i principi e i capi nell'accampamento del re di Assiria. Questi ritornò al suo paese con il viso coperto di vergogna. Quando entrò nel tempio del suo Dio, coloro che erano usciti dalle sue viscere lo uccisero con la spada. Così il Signore salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennacherib, re di Assiria, e dalla mano di tutti i suoi nemici, dandogli riposo da ogni parte. Molti portarono doni per il Signore a Gerusalemme e oggetti preziosi per Ezechia, re di Giuda, che, da allora, salì in considerazione agli occhi di tutte le nazioni. In quel tempo Ezechia fu colpito da una malattia mortale. Egli pregò il Signore, che gli rispose concedendogli un prodigio. Ma Ezechia non corrispose al beneficio che gli era stato concesso, perché il suo cuore si era inorgoglito, e sopra di lui, sopra Giuda e Gerusalemme, pesò l'ira divina. Allora Ezechia si umiliò dell'orgoglio del suo cuore, lui e gli abitanti di Gerusalemme, e così l'ira del Signore non venne sopra di essi durante i giorni di Ezechia. Ezechia ebbe ricchezze ed onore in grande abbondanza, si procurò tesori in argento e oro, in pietre preziose, profumi, scudi ed ogni specie di oggetti preziosi. Possedette magazzini per il raccolto del grano, del mosto e dell'olio, e anche stalle per ogni specie di bestiame e ovili per i greggi. Fece costruire città ed ebbe bestiame minuto e grosso in abbondanza, perché Dio gli aveva concesso un immenso patrimonio. Ezechia otturò l'uscita superiore delle acque di Gicon e le diresse in basso verso l'occidente della città di Davide. Ezechia riuscì in tutte le sue imprese. Ma quando i capi di Babilonia inviarono a lui dei messi per informarsi del prodigio che era avvenuto nel paese, Dio lo abbandonò per metterlo alla prova e conoscere tutto ciò che era nel suo cuore. Il resto degli atti di Ezechia e delle sue opere pie sono scritte nella visione del profeta Isaia, figlio di Amoz, e nel libro dei re di Giuda ed Israele. Ezechia si addormentò con i suoi padri e fu sepolto sulla salita dei sepolcri dei figli di Davide. Alla sua morte, tutti i giudei e gli abitanti di Gerusalemme gli resero onore, e Manasse, suo figlio, regnò al suo posto. Quando divenne re, Manasse aveva 12 anni. Egli regnò a Gerusalemme 55 anni. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Egli ricostruì le alture che Ezechia, suo padre, aveva abbattuto. Eresse altari ai Baal, fece i pali sacri, adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Fece erigere altari nel tempio del Signore, del quale il Signore aveva detto: «A Gerusalemme il mio nome rimarrà per sempre». Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili del tempio del Signore. Fu lui che fece passare i suoi figli attraverso il fuoco nella valle di Ben Hinnon. Praticò l'astrologia, la magia e la divinazione, stabilendo necromanti e indovini. Moltiplicò il male agli occhi del Signore, in modo da provocarne lo sdegno. Collocò la statua dell'idolo che si era fatta nel tempio di Dio, del quale Dio aveva detto a Davide e a Salomone suo figlio: «In questo tempio ed in Gerusalemme, che ho scelto tra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre». non voglio che il piede di Israele si allontani più dal suolo che ho destinato ai loro padri, a condizione che si impegnino ad eseguire tutto ciò che ho loro comandato, secondo tutta la legge, i decreti e le disposizioni date per mezzo di Mosè. Ma Manasse sviò Giuda e gli abitanti di Gerusalemme, in modo che essi agirono peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutto di fronte agli israeliti. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non prestarono attenzione. Allora il Signore fece marciare contro di essi i capi dell'esercito del re di Assiria. Questi presero Manasse con uncini e, legatolo con doppia catena di bronzo, lo condussero in Babilonia. Trovandosi in angustia, Manasse implorò il Signore suo Dio e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. Lo supplicò e fu esaudito. Il Signore ascoltò la sua supplica e lo ricondusse a Gerusalemme, nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Dopo di ciò, egli costruì un muro esterno alla città di Davide, ad occidente di Gicon, nella valle, fino alla porta dei pesci, tutto intorno all'Ofel, e lo fece molto alto. Poi stabilì capi dell'esercito in tutte le città fortificate di Giuda. Fece sparire dal tempio del Signore gli dei stranieri e l'idolo, come anche tutti gli altari che aveva costruito sulla collina del tempio del Signore e in Gerusalemme, e li gettò fuori della città. Quindi ristabilì l'altare del Signore, offrendo sopra di esso sacrifici pacifici e di lode, ed ordinò ai giudei di servire il Signore, Dio di Israele. Tuttavia, il popolo continuava ad offrire sacrifici sulle alture, ma solamente in onore del Signore, suo Dio. Il resto degli atti di Manasse, la preghiera che egli rivolse al suo Dio e le parole dei veggenti che gli parlarono in nome del Signore, Dio di Israele, sono scritte negli atti dei re di Israele. La sua preghiera e come fu esaudito, ogni suo peccato e infedeltà, i luoghi sui quali eresse le alture e drizzò pali sacri e idoli prima di essere umiliato, è scritto negli atti di Cozai. Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa. Al suo posto regnò Amon, suo figlio. Quando cominciò a regnare, Amon aveva 22 anni e regnò 2 anni a Gerusalemme. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse suo padre. Amon offrì sacrifici a tutti gli idoli che Manasse, suo padre, aveva fatto costruire, e li servì. Non si umiliò davanti al Signore, come s'era umiliato Manasse, suo padre. Anzi, egli, Amon, aumentò le sue colpe. I suoi servi fecero una congiura contro di lui e lo uccisero nella sua casa. Allora il popolo del paese colpì a morte tutti quelli che avevano cospirato contro il re Amon, ed il popolo del paese proclamò re al suo posto Giosia, suo figlio. Quando cominciò a regnare, Giosia aveva 8 anni e regnò in Gerusalemme 31 anni. Fece ciò che è retto al cospetto del Signore e seguì la condotta di Davide suo padre, senza deviare né a destra né a sinistra. Nell'ottavo anno del suo regno, quando era ancora giovane, cominciò a ricercare il Dio di Davide suo padre, e nel 12° anno cominciò a purificare Giuda e Gerusalemme dalle alture, dai pali sacri, dagli idoli e dalle immagini di metallo fuso. Furono demoliti davanti a lui gli altari dei Baal fece abbattere gli altari d'incenso che vi erano sopra, frantumò i pali sacri, gli idoli e le immagini in metallo fuso, li ridusse in polvere che sparse sui sepolcri di coloro che avevano ad essi sacrificato. Bruciò le ossa dei sacerdoti sui loro altari e così purificò la Giudea e Gerusalemme. Lo stesso fece nelle città di Manasse, di Efraim, di Simeone e fino a Neftali e nei territori che le attorniavano. Abbatté gli altari e frantumò i pali sacri e gli idoli, riducendoli in polvere, e demolì tutti gli altari d'incenso in tutto il paese di Israele. Poi fece ritorno a Gerusalemme. Nell'anno 18° del suo regno, dopo aver purificato il paese e il tempio, incaricò Safan, figlio di Asalia, Maaseia, governatore della città, e Joach, figlio di Joacaz, archivista, di restaurare il tempio del Signore suo Dio. Essi si recarono presso il sommo sacerdote Chelchia e consegnarono il denaro depositato nel tempio che i Leviti, custodi della porta, avevano raccolto da Manasse, da Efraim e da tutto il resto di Israele, da tutta la Giudea, da Beniamino e dagli abitanti di Gerusalemme. Lo consegnarono in mano ai direttori dei lavori preposti al tempio del Signore, i quali lo impiegarono per gli operai che lavoravano nel tempio del Signore per consolidarlo e restaurarlo. Lo consegnarono ai carpentieri ed ai muratori per acquistare pietre da taglio e legname per le armature e le travature dei locali che i re di Giuda avevano lasciato andare in rovina. Quegli uomini lavoravano con onestà. Si trovavano sotto la sorveglianza di Jacat e Abdia, leviti dei figli di Merari, e di Zaccaria e Mesullam, cheatiti, che li dirigevano. I leviti, tutti esperti di strumenti musicali, sorvegliavano i portatori e dirigevano tutti quelli che eseguivano lavori nei diversi servizi. Alcuni leviti erano anche scribi, ispettori e portieri. Mentre si prelevava il denaro depositato nel tempio del Signore, il sacerdote Chelchia trovò il libro della legge del Signore, data per mezzo di Mosè. Allora Chelchia, presa la parola, disse allo scriba Safan: «Ho trovato nel tempio del Signore il libro della legge». Chelchia consegnò il libro a Safan. Safan portò il libro dal re, a cui riferì: «I tuoi servi eseguiscono tutto ciò che è stato loro ordinato. Hanno versato il denaro trovato nel tempio del Signore e l'hanno consegnato ai sovrintendenti e agli operai». Poi lo scriba Safan annunciò al re: «Il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro». Safan ne lesse una parte alla presenza del re. Quando il re udì le parole della legge, si strappò le vesti. Egli diede quest'ordine a Chelchia, ad Achicam, figlio di Safan, ad Abdon, figlio di Mica, allo scriba Safan e ad Asaia, ministro del re: «Andate a consultare il Signore per me e per quelli che sono rimasti in Israele ed in Giuda, circa le parole del libro che è stato trovato. Difatti, grande è la collera del Signore riversatasi sopra di noi, perché i nostri padri non osservarono la parola del Signore, agendo in conformità con quanto è scritto in questo libro». Allora Chelchia, insieme con quelli che il re aveva designato, si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum, figlio di Tocat, figlio di Casra, il guardarobiere. Essa abitava a Gerusalemme, nella città nuova. Le parlarono in questo senso, ed ella rispose: «Così parla il Signore Dio di Israele. Riferite all'uomo che vi ha inviato da me: Così parla il Signore. Ecco, faccio venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti. Tutte le maledizioni scritte nel libro che è stato letto al cospetto del re di Giuda. Poiché mi hanno abbandonato ed hanno offerto incenso a divinità straniere, così da provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani, la mia collera si riverserà su questo luogo e non si spegnerà. Al re di Giuda che vi ha inviato a consultare il Signore, direte: così parla il Signore, Dio d'Israele. A proposito delle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, ti sei umiliato davanti a me, hai strappato le tue vesti ed hai pianto al mio cospetto, anch'io ho ascoltato. Oracolo del Signore, ecco che ti riunirò con i tuoi padri, sarai accolto in pace nel tuo sepolcro, i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che farò venire su questo luogo e sui suoi abitanti. Quelli riportarono il messaggio al re. Allora, per ordine del re, si riunirono tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore insieme con tutti gli uomini di Giuda e con gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al più piccolo. Egli fece leggere in loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza trovato nel tempio del Signore. Il re, stando ritto sul suo podio, concluse un'alleanza davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, osservare i suoi precetti, le sue prescrizioni e i suoi decreti con tutto il cuore e con tutta l'anima, in modo da mettere in pratica le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Egli vi fece aderire tutti quelli che si trovavano in Gerusalemme e Beniamino. Gli abitanti di Gerusalemme agirono in conformità dell'alleanza di Dio, del Dio dei loro padri. Giosia fece sparire tutte le abominazioni da tutti i territori appartenenti agli israeliti e costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio. Durante tutta la sua vita, essi non si allontanarono dal Signore, il Dio dei loro padri. Giosia celebrò in Gerusalemme una Pasqua in onore del Signore. Si immolò la Pasqua il 14° giorno del primo mese. Stabilì i sacerdoti nei loro uffici e li confermò nel servizio del Tempio del Signore. Egli disse ai Leviti, che istruivano tutto Israele e sono consacrati al Signore: collocate l'Arca Santa nel Tempio costruito da Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Ciò non è più un peso per le vostre spalle. Ora servite il Signore, vostro Dio, e il suo popolo Israele. Tenetevi pronti, secondo i vostri casati, secondo le vostre classi, in conformità con la prescrizione di Davide, re di Israele, e di Salomone, suo figlio. State nel santuario a disposizione dei gruppi formati dai casati dei vostri fratelli, dei figli del popolo. A loro disposizione vi sia una parte di un casato dei Leviti. Immolate la Pasqua, santificatevi, preparatela per i vostri fratelli, mettendo in esecuzione la parola del Signore trasmessa da Mosè. Giosia donò ai figli del popolo bestiame minuto, agnelli e capretti, da servire come vittime pasquali per tutti quelli che si trovavano lì presenti. Il loro numero era di 30.000 e in più 3.000 buoi. Ciò proveniva dai beni del re. Anche i suoi capi fecero offerte spontanee al popolo, ai sacerdoti e ai leviti.

le sue azioni, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Il popolo del paese prese Joacaz, figlio di Giosia, e lo proclamò re in Gerusalemme, al posto di suo padre. Quando divenne re, Joacaz aveva 23 anni, regnò 3 mesi in Gerusalemme. Il re d'Egitto lo destituì in Gerusalemme ed impose al paese un contributo di 100 talenti d'argento e di 1 talento d'oro. Quindi il re d'Egitto costituì re sulla Giudea e su Gerusalemme suo fratello Eliachim, cui cambiò il nome in Joiachim. Quanto a suo fratello Joacaz, Necao lo prese e lo condusse in Egitto. Quando Joiachim divenne re, aveva 25 anni. Regnò 11 anni in Gerusalemme. Fece ciò che è male al cospetto del Signore suo Dio. Contro di lui marciò Nabucodonosor, re di Babilonia, il quale lo legò con catene di bronzo per condurlo in Babilonia. Anche una parte degli oggetti del Tempio del Signore Nabucodonosor la sportò in Babilonia, deponendola nella sua reggia in Babilonia. Il resto degli atti di Joiachim, le abominazioni che commise e ciò che gli si può imputare, sono descritte nel libro dei re di Israele e di Giuda. Al suo posto divenne re suo figlio, Joiachin. Quando divenne re, Joiachin aveva 18 anni, regnò in Gerusalemme 3 mesi e 10 giorni e fece ciò che è male al cospetto del Signore. All'inizio del nuovo anno, il re Nabucodonosor inviò a prenderlo e lo fece condurre a Babilonia insieme agli oggetti preziosi del Tempio del Signore. Egli nominò re su Giuda e su Gerusalemme Sedecia, suo fratello. Quando divenne re, Sedecia aveva 21 anni. Regnò 11 anni in Gerusalemme, fece ciò che è male al cospetto del Signore suo Dio. Non si umiliò davanti al profeta Geremia, interprete del Signore. Osò persino ribellarsi contro il re Nabucodonosor, che gli aveva fatto giurare fedeltà in nome di Dio. Irrigidì la sua cervice e si ostinò nel suo cuore senza far ritorno al Signore, Dio d'Israele. Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti ed il popolo, moltiplicarono le loro infedeltà, conformandosi a tutte le abominazioni delle genti, e contaminarono il tempio che il Signore si era consacrato in Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò sin dall'inizio e senza posa i suoi messaggeri ad avvertirli, giacché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi schernirono i messaggeri di Dio, disprezzarono le loro parole e si burlarono dei suoi profeti, finché la collera del Signore contro il suo popolo raggiunse un punto in cui non c'era più rimedio. Allora il Signore fece marciare contro di loro il re dei Caldei, il quale uccise di spada i loro giovani all'interno del santuario, senza avere pietà per i giovani, le vergini, i vecchi e le teste canute. Il Signore consegnò ogni cosa in suo potere. Tutti gli oggetti del Tempio di Dio, i grandi e i piccoli, i tesori del Tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi principi, tutto fu portato in Babilonia. Il Tempio di Dio fu dato alle fiamme, le mura di Gerusalemme furono abbattute, tutti i suoi palazzi furono consumati dal fuoco, tutti i suoi oggetti preziosi furono destinati alla distruzione. Nabucodonosor deportò in Babilonia quelli che erano sopravvissuti alla spada. Essi divennero schiavi, suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano. Così si compiva la parola del Signore predetta da Geremia: finché il paese non abbia scontato i suoi sabati, esso riposerà durante tutto il tempo della desolazione, fino al termine di 70 anni. nel primo anno di Ciro, re di Persia, in adempimento della parola del Signore pronunciata da Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia. Egli fece proclamare per tutto il suo regno, a voce e per iscritto: così parla Ciro, re di Persia. Il Signore, il Dio dei cieli, ha dato il mio potere tutti i regni della terra. Egli stesso mi ha incaricato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che si trova in Giuda. Chiunque tra voi appartenga al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui, e si metta in cammino.